Il regalo le piacerà sicuramente. L'ho comprato online e non ero certo di riceverlo in tempo. Per fortuna la spedizione è gestita da Amazon Shipping. Un gioco da ragazzi. Offri ai tuoi clienti l'esperienza di consegna a cui si affidano da anni. Amazon Shipping, il servizio di spedizione per tutti i canali di vendita online. Let's go! Let's go! Da Media World sono arrivati i Club Days. Entra nei club e scopri le offerte dedicate. Ad esempio, fino al 30 settembre, solo per te, TV Hisense 4K 55 pollici, tua a soli 379 euro. Approfittane in negozio online. Media World, let's go! L'ospite che mi ha accompagnato per questa diretta è Giuseppe Pugliese. E quello che state per ascoltare infatti è l'episodio di Morfeo, il primo episodio live di Morfeo, un episodio che ho voluto dedicare a questo amico, a questo podcaster, a questo tuttofare della tecnologia che veramente mi ha riempito la serata di cose. Veramente abbiamo parlato di tutto, di astrofisica, di scienza, di tecnologia, del suo lavoro, di musica, di come intendiamo la vita, il mondo, l'universo e tutto quanto, insomma. È stata una chiacchierata veramente molto prolifica, molto interessante e io sono fiero di come è venuta questa puntata. Sono veramente fiero di aver avuto lui come primo ospite, perché secondo me ha dato il là a quello che intendo fare con questo progetto, ossia Morfeo. Portare le persone, insomma, ad essere se stesse, ad esprimersi in piena libertà, a dire tutto quello che pensano, senza doversi preoccupare di avere di fronte qualcuno che possa, che so, offendersi per qualche motivo. Anzi, io ho trovato i suoi spunti molto, molto, molto interessanti. E sarà veramente molto curioso riascoltare poi il prodotto finale una volta che avrò ricaricato questo episodio. Sono contento di essere riuscito a portarla comunque in live, non ci sono stati purtroppo ospiti che ci hanno seguito, che hanno fatto commenti o apprezzamenti a Giuseppe, anche se lui se li sarebbe meritati veramente tutti, però sono comunque felice che lui abbia partecipato e che abbia condiviso con me così tanto. Quindi, senza perdere altro tempo, vi lascio alla puntata che ho appena finito di registrare e che così mi ha lasciato veramente veramente molto molto felice. Sono contento di poter andare a dormire adesso, avendo fatto assieme a Giuseppe questa cosa molto molto bella. Quindi buon ascolto. Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questa primissima diretta di Morfeo, il podcast per chi non vuole dormire la notte, per chi deve o vuole rimanere sveglio. Io sono sempre il vostro Leo Vargion e, signori, io mi scuso veramente tantissimo perché comunque questa diretta non è partita esattamente nel migliore dei modi, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici dovuti, non so nemmeno io bene che cosa, ma direi che lasciarci alle spalle questo bruttissimo ricordo, perché con me c'è una persona assolutamente fantastica che io non vedevo l'ora veramente di avere qui in trasmissione, quindi con uno scrosciante applauso digitale io accoglierei qui con me Magneter Man Giuseppe Pugliese. Salve, buonasera a tutti, ciao Leo, grazie per i complimenti, è bello essere qua. Oh, carissimo Giuseppe, allora, innanzitutto grazie veramente tantissimo per la pazienza che ci hai dimostrato, per per tutto il tuo affetto, per tutto il tuo calore, la tua tranquillità e la tua calma che sei riuscito ad infondermi in questa prediretta così complicata in cui abbiamo dovuto mettere link su link di questa roba. Ma ci siamo riusciti, alla fine siamo riusciti finalmente a sentirci in questa live. Io spero veramente che possano le genti arrivare anche qui in trasmissione adesso, in questo momento, per farti un sacco di domande, come ne ho tante da farti anch'io. Ma io comincerei subito innanzitutto col presentarti, perché Giuseppe è una vera e propria personalità poliedrica, fa un sacco, veramente un sacco di cose. Ma io vorrei chiederti, nell'umano, Giuseppe Pugliese chi è? Allora, è una persona molto particolare, cioè nel senso, sono nato l'11 gennaio del 94. Di lì poi è stato sempre una situazione un po' complicata. Mi spiego meglio. Già da piccolo, almeno i miei genitori mi hanno sempre detto che ero una persona abbastanza particolare, nel senso che ero molto chiuso, molto taciturno. Non vi aspetterete mai che col fatto che faccio podcast e tutto, ho anche un lavoro con cui serve relazionarsi parecchio con la gente. Da piccolo ero un tipo taciturno, comunque sì, ero parecchio sulle mie, e nel senso che avevo un problema di comunicazione. Addirittura è emblematica una frase che mia mamma mi ricorda spesso, cioè che un giorno, tornato dall'asilo, mi siedo in macchina con il broncio e lei, chiedendomi che cos'è che non andava, appunto mi dice, gli dico in maniera abbastanza scocciata: mamma, ma perché quando io parlo la gente non mi capisce? E di lì credo che sia la summa di quello che è un po' la mia esistenza, perché non so per quale motivo, forse perché ho avuto una famiglia molto presente dietro, sia come genitori ma soprattutto come nonni, e che già da piccolo, io già da piccolissimo, mi hanno detto che riuscivo a fare le tabelline, a portare di conto senza problemi, perché mia nonna era insegnante dalla parte di mio padre di matematica, e quindi aveva elaborato tutto un metodo suo e pareva che funzionasse. Che con te funzionasse questo sì, metodo. Sì, sì. No, perché io già a 4-5 anni riuscivo a fare addizioni, moltiplicazioni, divisioni anche oltre il migliaio. Comunque i miei genitori mi bombardavano letteralmente di stimoli, quindi il mio cervello era sempre sovraccarico di roba, in quanto mio padre, per quanto riguarda la musica, perché io già quando mia mamma era incinta di me, a livello musicale mio padre è sempre stato un tipo diciamo poliedrico nei generi, quindi Pink Floyd, Alan Parsons, tutte diciamo sonorità abbastanza particolari che già dalla pancia mi hanno probabilmente mi hanno infuso un orecchio particolare, perché sia a parte queste cose, già da piccolo mi ero reso conto, cioè a me e i miei genitori si erano resi conto che ho un ottimo orecchio, tant'è vero che anche quando ero piccolo, per esempio, non so se hai presente il rumore che fanno i freni degli autobus quando si fermano, che quello stridore di freno usurato. Lo conosco anche troppo bene, sì. Ecco, a me quando ero piccolo, giravo per strada, mi creava gravissimi problemi, cioè per me era un suono acutissimo, e ancora oggi che a 26 anni l'orecchio dovrebbe essersi un attimo impoverito, comunque continua a crearmi problemi. Quindi sono sempre stato un tipo particolare da diversi punti di vista, te l'ho detto, secondo me soprattutto per il background della mia famiglia, che erano principalmente medici e farmacisti, ma erano anche insegnanti di matematica, eccetera. Quindi mi hanno bombardato parecchio da tantissimi punti, e quindi il mio cervello già da piccolo è stato abituato ad avere molteplici stimoli e riuscire in qualche modo a gestirli. E io vorrei collegarmi un attimo con questa, proprio con questa cosa che tu ci hai detto, proprio con questo tuo modo anche di intendere, secondo me, tutti gli stimoli che ti sono arrivati, perché io credo che la mente umana in qualche modo si possa concentrare maggiormente su materie che possono essere sia umanistiche, artistiche, matematiche, e mi pare di capire invece che i tuoi stimoli siano arrivati un po' da tutti questi, diciamo così, macro ambienti in qualche modo. Quale senti poco quello... umanistici, poco umanistici, molto... quale senti il più vicino al tuo modo di intendere la vita, insomma? Qual è quello che ti ha dato di più? O quello che allora, senti in qualche modo più tuo? Sì, allora, chi mi conosce in pratica dice che sono una calcolatrice vivente, nel senso che io prediligo molto l'aspetto logico. 7 per 8? A parte le moltiplicazioni, nel senso proprio di infatti molti mi hanno tacciato anche di avere problemi a livello sentimentale, proprio perché sono una persona non fredda, però molto calcolatrice, cioè nel senso sto molto attento a cosa dire e cosa non dire. Di base, comunque, quando ho davanti una persona, la prima cosa che faccio e che mi ha insegnato mia mamma è a studiarla, a capire che tipo di persona è, che background ha, dal modo di come veste, come parla e come si gestisce, in modo da riuscire a comunicare il più facilmente possibile con lei, perché ovviamente sei molto quando... analitico nel tuo modo sì, di sì, fare sì, no, ma non, sì, per questo è proprio per questo mi ricordo ancora una frase, perché io ho il periodo scolastico che per me è stato un inferno a tutti gli effetti, cioè molti dicono il periodo scolastico è la cosa più bella, invece no, per me la cosa più brutta è non sono stato contentissimo di andarmene, perché il periodo scolastico a me è stato travagliatissimo. Mi ricordo ancora quando alle scuole elementari, in quinta, la maestra mi disse a mia mamma: guarda, una maestra perfetta, cioè veramente pochi professori e poche maestre sono riusciti a, non lo so, è come se mi avessero dato quella per migliorare, mentre tutto il resto li reputo cacca. Ma andiamo avanti, cioè nel senso, mi ricordo ancora la maestra delle elementari che disse: visto che lui è una persona così analitica, è sostanzialmente così portato per le materie scientifiche, converrebbe fargli fare un liceo classico, in modo che vada a controbilanciare in generale tutto quello che fa, e quindi abbia una sorta di equilibrio un po' più avanti. Ovviamente, tu hai fatto questo liceo? No, ho fatto lo scientifico. Diciamo che io volevo andare addirittura all'informatico, perché già da piccolo avevo questa passione per l'informatica, proprio pesante, per quanto riguarda i computer, che vedevo a tutti gli effetti come una forma di espressione, perché tramite i videogiochi, tramite poi comunque tutto quello che era l'informatica in generale, quindi già il web mi iniziava a carpire, quindi già non so per quale motivo il mio destino stava venendo segnato da quel punto di vista, e appunto proprio per questo io avrei voluto fare l'informatico, perché io sono un tipo molto molto curioso, quindi quando qualcuno mi pone un problema oppure vedo qualcosa devo capire sempre come è fatto, e questo è stato la molla principale. Tanto è vero che io, tipo a 3 anni, mi ricordo ancora un fatto, cioè che venne il tecnico a casa per metterci il joystick per farmi giocare, e io avevo 3 anni e mezzo, 4, non mi ricordo. In pratica, dopo che ci fu un sacco di tempo a smanettarci sopra, non riuscì a installare questi driver. Io tempo 40 minuti, anche perché la mia memoria non era ancora ben formata, quindi mi era stata raccontata questa cosa, quindi non so se è leggenda oppure in realtà. A tempo 40 minuti mi installai da solo i driver del joystick e dissi ai miei genitori: ma se questa cosa me la sono fatta da solo, e mentre uno che ho pagato non è riuscito a farmela, perché devo continuare a chiamarlo e a dargli dei soldi? Ed è là è stato il volano generale che mi ha fatto protendere principalmente per l'informatica. Però mia mamma si impose pesantemente, perché disse: no, guarda che devi fare un liceo, perché poi devi andare all'università, eccetera eccetera eccetera eccetera. Sappiamo i genitori come sono da questo punto di vista, perché ovviamente loro hanno ancora un concetto molto vecchio, molto antico, secondo cui il fatto gli istituti tecnici non ti preparano mentalmente, ma soprattutto alla vita, come i licei hanno questo punto di vista, che devo dire la verità, con la vecchiaia, cioè con i miei 26 anni non concepisco, perché ci sono modi e modi, però inizio ad inquadrare, perché ovviamente il liceo scientifico, facendomi comunque avere a che fare con il latino oltre che con la matematica, io di base avevo una professoressa con cui che quelle di scolastiche facevano veramente erano penose, e andavo a ripetizioni da questa professoressa, che era lei del liceo classico, mi fece fare anche alcune alcune basi di greco, e quindi in pratica anche se non ho fatto lo scientifico, ho fatto anche il classico un pochino, quindi per dirti mi sono reso conto che se avessi fatto un tecnico, un industriale, non perché quelli che fanno il tecnico me ne vogliano, però non sarei riuscito ad espandere così tanto il mio punto di vista critico, ma soprattutto logico, perché come sappiamo le lingue sono paradossalmente molto logiche, soprattutto sì. Il latino, il greco e poi tutte le derivazioni, quindi italiano eccetera, sono molto logiche, quindi non avrei avuto quella marcia in più che poi mi avrebbe permesso di avere tutta una serie, certo, di traguardi, di evolvere. Ti vorrei, sì, citare una cosa, perché io non so se lo segui il canale YouTube di Morte Bianca. È un canale YouTube che tratta moltissimi argomenti, e in una delle sue piccole miniserie di video in cui analizzava praticamente i pregi e i difetti sicuramente del liceo classico, perché non so se tu lo sai, ma c'è stato per un periodo tutto un movimento, diciamo, che mirava praticamente a screditare il valore del liceo classico, e lui parlava proprio di questo, del valore in qualche modo della lingua, soprattutto della lingua latina e della lingua greca, perché diceva effettivamente che ci sono degli studi che hanno dimostrato che i voti comunque di chi aveva un'educazione in questo senso, comunque una base di latino, una base di greco, favoreggiava in qualche modo i voti anche in materie particolarmente scientifiche come matematica, informatica, e praticamente il dato era piuttosto evidente, cioè che chi aveva studiato latino effettivamente aveva degli ottimi risultati anche in queste altre materie. Collegandomi a questo, la scuola quanto ha inciso effettivamente sulla tua scelta poi del mestiere di web designer? Ma è corretto dire che tu sei un web designer? E soprattutto, quanto di questi studi peculiari che tu hai fatto, perché tu giustamente hai detto ho una base di latino, ho una base di greco, quanto di questo ha inciso sulla tua professione e quanto ti porti effettivamente da allora, da questa scuola, insomma? Sono belle domande. Allora, inizio a risponderti. Innanzitutto, per quanto riguarda la parte scolastica, più che direzioni, mi hanno dato rabbia e grinta, perché come ti ho detto, per quanto mi riguarda, essendo una persona che non è che si è scocciata della scuola, ma la vedevo sempre la vedevo sempre in maniera molto apatica, perché comunque mi facevano fare, ovviamente come tutti, perché tu sei più o meno del sesto mio decennio, quindi hai fatto più o meno le stesse cose. Io ho scoperto con orrore di essere più grande di te in realtà, perché sono del 91, quindi sempre là, quindi più o meno sai l'ambiente scolastico com'era, cioè quindi la stiamo. Proprio per questo io la scuola per me è un capitolo che, ti ripeto, è un capitolo che mi ha dato una soddisfazione enorme alla fine, ma io la ricordo, e se devo fare un incubo, per me è la scuola, perché io ricordo che per esempio dopo la bellissima parentesi delle scuole elementari, dove tra virgolette venivo anche un pochino coccolato e spinto, passo degli anni di scuola media terribili, perché non a livello scolastico i miei voti iniziano a crollare in maniera assurda. Per me è una botta, veramente un colpo al cuore non indifferente, perché essendo stato abituato comunque ti sei trovato in un ambiente che in cui diciamo ti sei dovuto impegnare di più. La classe faceva schifo, nel senso proprio a livello umano di persone, gli insegnanti erano pessimi tranne alcuni, e io non sapevo per quale motivo ebbi questo calo vertiginoso durante tutte le scuole medie. Le scuole medie per me sono stato un periodo nerissimo, tant'è vero che le ho quasi completamente rimosse dal cervello, tanto che sono state negative come sì, è arrivata addirittura, io mi ricordo, emblematica è la frase della professoressa di italiano e latino, che è una persona che ancora adesso, perdonami la parola, ma da persona cresciuta, se la rincontrassi direi che è stata anche abbastanza viscida, perché una persona che aveva dei problemi familiari gravi e umanamente... bravissimo, li scaricava a più non posso sugli studenti, e questa cosa mentalmente a me ha creato dei seri problemi che poi ovviamente con il mio carattere forte sono riuscito a controbilanciare alla grande e a farne delle virtù da delle debolezze vere e proprie. Perché appunto mi ricordo l'ultimo anno, di solito si sa, l'ultimo anno quando stai in terza, prima dell'esame finale, ti chiedono un pochino che liceo vuoi andare a fare. E, all'interno della classe, vabbè, passarono un pochino tutti quanti, così colà arrivò il mio turno e dissi: guardi, io vorrei fare il liceo scientifico perché con il classico non sono sicuro che non caverei niente a livello proprio idealistico, perché mi ero fissato con lo scientifico, visto che non potevo andare all'informatico. Ho detto: arrivato a questo punto dirigiamoci sullo scientifico, perché il classico non lo voglio guardare neanche da lontano. Lei ovviamente detto in altri termini, in maniera molto più composta, perché si sa, al periodo c'era anche un certo linguaggio che dovevi utilizzare con i professori, cosa che adesso sembra si sia un attimo persa, e di questa cosa me ne dispiaccio, però vabbè, queste sono altre storie. Purtroppo. E lei mi pietrificò dicendo che io, che secondo lei io ero troppo, queste parole segnatele, io ero troppo stupido per fare uno scientifico, mentre il mio grado di intelligenza era al servizio forse di un professionale, al massimo un alberghiero. Lascia stare quello che mi abbia potuto dire, che tu quando lo dici a un ragazzo di un'età molto bassa, soprattutto alle scuole medie, tu gli stai causando un trauma, quindi solo per questo il media adesso l'attaccherebbe mani e piedi al muro con i chiodi. Sì. Sicuramente. Vorrei chiedere, riportandoci un attimo alla domanda, tutte queste esperienze come si sono ripercosse alla fine durante l'inizio della tua carriera di web designer? Mi hanno fatto diventare molto critico con me stesso, ma soprattutto molto, come posso dirti, molto testardo, molto temerario, perché notando che durante il mio percorso di studi spesso quello che diceva la gente poi non si rifletteva nel concreto, cioè nel senso quello che mi dicevano di fare poi alla fine creava degli errori, mentre quando bene o male capivo la situazione e facevo a modo mio, gli errori erano molti di meno e il lavoro era fatto meglio, iniziai a capire che forse dovevo smetterla un pochino di stare a sentire quello che pensavano gli altri e fare un po' di testa mia. Per quanto riguarda il lavoro di web designer, è iniziato tutto, me lo ricordo ancora come se fosse ieri, nel 2005-2006. Era un Natale e io, partendo da Altervista, misi in piedi un sito blog dove volevo scrivere appunto di alcune notizie di informatica, in quanto quelle che c'erano al periodo sui blog non mi soddisfavano perché erano poco tecniche ed erano trattate. Era già Magneterman questo sito, questo blog? No, è un sito che non esiste, perché la storia di Magneterman, poi se abbiamo tempo te la spiego, che è parecchia lunga, ci potrebbe scrivere un libro. Ma guarda, però sintetizziamola dopo questo pezzo, allora finisci di raccontarmi questa parte, guarda, poi di Magneterman. Si parte da questo blog e ovviamente, come qualsiasi cosa, io voglio capire come funziona un po' quel sistema. E ovviamente è un hobby, perché in quel periodo, dal 2005 al 2010, comunque c'era il liceo, c'era fine delle scuole medie, inizio del liceo, poi ovviamente tutto il liceo mi ha assorbito completamente, era un hobby. In quel periodo fu il periodo di, devo dire la verità, di massimo splendore per quanto mi riguarda, perché iniziai anche a scrivere musica, iniziai anche quindi il percorso musicale, iniziai a fare video con dei ragazzi su YouTube che pure andarono molto molto bene. Ancora oggi c'è un video online che ha più di 8.000 visualizzazioni, al periodo erano numeroni, soprattutto in Italia. Assolutamente. Ed è un video idiota, completamente un video stupido, e appunto quello è il periodo che ricordo diciamo con più gioia, non il periodo scolastico ma quello che facevo fuori da scuola con gli amici, perché ero sempre impegnato a fare cose, e questa cosa del web design cresce sempre di più, e alla fine mi rendo conto che se non voglio fare la fine del morto di fame, visto che sostanzialmente con la musica è molto molto difficile andare in profit in maniera tra virgolette abbastanza veloce, sempre perché dei miei genitori avevo una pressione non indifferente per quanto riguardava l'università, decido di intraprendere l'università di informatica. L'università, dopo aver provato un anno con farmacia, visto avendo una famiglia tutti medici e farmacisti, dovevo provarci a forza. Sì, infatti ti volevo, più tardi ti chiederò anche di questo aspetto, perché in questo periodo sicuramente ci interessa particolarmente sapere di questo, ma continuo pure. Sì. Allora, in pratica, vabbè, dopo aver fatto un anno di farmacia è andato in maniera abbastanza disastrosa, perché non era il mio, per quanto le lezioni mi interessavano. Inizio a capire, anche dopo l'anno di informatica, che l'università non fa per me, perché proprio ebbi un cortocircuito, in quanto soprattutto ad informatica, ma anche a farmacia, vedevo che il corso di studi era troppo frammentato. Cioè, quando tu inizi un ragionamento, io parto dal concetto, e ancora oggi anche nel podcast lo faccio, che tu quando parti da un ragionamento e lo vuoi e vuoi creare diversi segmenti per renderlo più facilmente fruibile a una persona che magari non conosce il suddetto argomento, è più facile averne, ovviamente ne devi avere un'ottima comprensione generale, e poi man mano vai da 0 a 100, ovviamente spezzettandolo in maniera corretta e stando attento a come lo spezzetti. Il corso di studi di farmacia, ma soprattutto di informatica, erano qualcosa di assurdo, perché il primo anno facevi tutta roba praticamente inutile, nel senso che avevi a che fare con linguaggi di programmazione che al giorno d'oggi sono inesistenti, non vengono per nulla utilizzati, e vengono utilizzati per tutto un anno, quando tu avresti potuto fare una a più riprese, avresti potuto fare solo dei cenni per capire la logica di quel linguaggio, che poi si è evoluta in altri linguaggi. E mi sono reso conto che buttare 5 anni appresso l'università per poi avere una laurea, che colleghi lavorano molto meno di me e hanno molti più problemi di me, mi ha fatto capire che poi alla fine forse il discorso tanto errato non l'ho fatto, almeno per quanto riguarda l'università qua. Poi ovviamente se vai al Politecnico di Milano, oppure se vai ad altre università, anche se i programmi sono simili, ovviamente se esci da là è tutto un altro discorso. Perdonami, non so se me lo sono perso nel discorso, stiamo parlando di quale università, quale hai frequentato? Allora, io sono stato qua a Fisciano, cioè nel senso, io sono di Salerno, quella di Fisciano, il campus di Fisciano, a detta è il miglior della Campania, addirittura il miglior del sud Italia, ma per quanto riguarda informatica non hanno mai fatto una ceppa di niente. A livello farmacisti, cioè a livello farmacia e medicina, è un campus che hai ragione, perché già quando lo frequentavano i miei genitori, perché anche i miei genitori erano prima a Napoli, poi quando aprì l'università di Fisciano, che è quella di Salerno, si trasferirono qua automaticamente, e ha delle eccellenze, veramente delle eccellenze. Da qua sono uscite delle persone che hanno fatto parecchio per la ricerca, ma anche grandi farmacisti, grandi medici. Per quanto riguarda, insomma, sì, abbastanza persone comunque con le gonadi abbastanza quadrate, non okay. Perché sto, no, non per questo l'ex San Leonardo, quello là che l'ospedale che sta a Salerno, che adesso si chiama Ruggi d'Aragona, non per questo è una punta di diamante del sud Italia, di tutto il sud Italia, e addirittura pareggia anche col nord per quanto riguarda cardiochirurgia e alcuni studi, e ovviamente escono tutti quanti dall'università di Fisciano. Quindi comunque c'è da andarne fieri. Per quanto riguarda informatica, c'è un encefalogramma piatto. E hai dovuto fare giustamente una scelta sicuramente sofferta, ma ti ha portato naturalmente ad un altro percorso, a essere l'uomo che sei oggi alla fine. Sì, alla fine più che altro mi ha portato una pace interiore, perché purtroppo il fatto, lo sai qual è? Mi sono reso conto, anche sentendo diverse storie di altre persone, che quando la strada non sei tu a deciderla secondo quello che ti senti, ma ascolti un po' troppo gli altri e lasci proprio che gli altri ti indichino la strada, non è mai quella giusta. Capisco quello che vuoi dire, infatti. E però questa strada ti ha portato alla bene a, ad iniziare Magneterman, questo progetto, dico bene? Ad iniziare un discorso che all'inizio non aveva un nome, perché poi sono così, cioè parto in maniera molto disorganizzata e poi concretizzo a seconda di quanto sia importante. Il discorso Magneterman è un nasce dalla Magnetar Motion Picture, nel senso che io ero fissato con le stelle, cioè nel senso io già per quanto riguarda l'astronomia ero un fissato, roba che all'elementare conoscevo già tutto il sistema solare, comprese le temperature di notte e di giorno di tutti i pianeti, quando gli altri miei compagni forse si facevano la cacca addosso. Per dirti un attimo la situazione. E quindi ero fissato veramente con l'astronomia, sono sempre stato un fissato di queste cose particolari. E quindi la Magnetar è un tipo di stella, è una stella a neutroni molto molto particolare, che quando esplode, oppure in generale quando pulsa, viene avvertita in tutto l'universo, proprio perché molto a livello di potenza è una delle stelle più luminose e più potenti che abbiamo mai scoperto. E quindi mi piaceva il nome, proprio come questa immagine molto di potenza, di affidabilità quasi anche. E in quel periodo facevo i video con un gruppo di amici, tra cui un amico che è stato anche ospite del mio podcast, con cui sostanzialmente ci conosciamo dalla nascita, ed eravamo in quattro, e nasce la Magnetar Motion Picture, cioè nel senso questa casa di produzione video autoprodotta che era, non era nient'altro che noi quattro che facevamo cose. Poi ovviamente siamo cresciuti, ci sentiamo ancora spesso, però ovviamente ognuno poi ha preso la propria strada. E non producete più per, per questo canale, no, insomma. Ma è morto da parecchi anni, è morto nel 2013, però noi ci continuiamo a sentire, abbiamo continuato a fare cose comunque di 18 anni, però passato quel periodo diciamo liceale, poi alla soglia dei 20, dei 21 anni, quando inizia il periodo dell'università, questa cosa andava a morire. Mentre facevo appunto, mentre questa cosa del web designer nel 2014, decido che deve diventare una professione a tutti gli effetti, perché dopo anni e anni che comunque avevo speso in formazione personale, ho detto io voglio fare questo nella vita. Anche se sarà ovviamente un percorso molto molto difficile. Quando andai appunto a scegliere il nome, non sapevo come chiamarmi, ebbi una crisi di identità, perché ero, spero che si possa dire, veramente rotto di palle del fatto che tutti quelli che lavorano nel mio settore, non so se c'hai presente, soprattutto quelli che hanno a che fare con il marketing e con la SEO, si chiamano nomecognome.com, che era una rottura di palle mega galattica, cioè nel senso facevano del personal branding mostruoso, sì. E poi alla fine andavano a vendere i corsi a 100 a 200 euro per diventare il maggiore esperto di il maggiore esponente di, e a me questa cosa puoi guadagnare 700 miliardi di dollari in un giorno. Bravissimo, e avevano tutti quanti questo nome, cognome.com, e a me questa cosa mi faceva venire il vomito e le convulsioni tutte insieme. Allora dissi, come posso creare comunque un mio personal branding, un marchio, che però sia completamente staccato da me, Giuseppe Pugliese, perché io quando vado a fare quel lavoro è come se mi sentissi una persona completamente diversa, è come appunto quando tu dalla terra entri in acqua e quindi devi riadattare completamente i tuoi movimenti perché sennò affoghi. Non so se mi sono spiegato. E quindi per te questo nickname in realtà non è semplicemente, sai, un brand, ma è proprio un, se vogliamo, quasi una maschera in realtà, quasi un'estensione del tuo lavoro. Paradossalmente sì, neanche una versione di me, perché non ho problemi, spero di non avere problemi di bipolarismo, però il fatto è che mi sento, è una grossa parte di me che però non mi sento io, non so se mi sono spiegato, è complicato da dire, però quando faccio quelle cose proprio il mio cervello si setta in una maniera completamente diversa dalla persona scherzosa, cazzarona che sono di solito. E quindi proprio per questo decisi di riesumare quel nome Magnetar Motion Picture, di farlo diventare, visto che ero rimasto l'unico della Magnetar Motion Picture, Magnetarman. E quindi nasce appunto questo brand, questa cosa. Andando a cercare su internet, ero l'unico veramente di tutto il web che aveva avuto che aveva questo nome, questo brand, tranne un account Twitter non utilizzato dal 2011. di un indiano, quindi sui social era completamente libero, il dominio era completamente libero, per, se andavo a cercare Magnetar ovviamente mi uscivano pagine di Wikipedia, trattazioni eccetera, perché la Magnetar è un fenomeno molto molto studiato, però se li mettevo insieme come Magnetarman ero l'unico, e quindi seguendo i corsi, facendo tesoro di quello che in SEO si va a ricercare, ovvero l'unicità di un termine, quindi è più facile lavorare su un termine unico che solo tu hai coniato, come appunto l'Apple sappiamo è unica, oltre ad essere un frutto, ma l'Apple sappiamo è unica, la Microsoft è unica. Certo. Sa bella è che Magnetarman ero io e basta, cioè non c'erano altre persone, quindi invece di utilizzare Giuseppe Pugliese web designer oppure Giuseppe Pugliese design, queste cose, queste parole che ti si impastavano in bocca, hai voluto Magnetarman... creare quasi un essere che fosse staccato da te, che facesse solamente quello, insomma. Paradossalmente sì, perché Magnetarman mi resi conto che era facile da ricordare, facile da pronunciare, anche se veniva storpiato, comunque era facile da scrivere, e il dominio era facilissimo da ricercare, e quindi avevo trovato la quadra paradossalmente a questo annoso problema, prendendo in prestito appunto quello che era appunto il mio passato, cioè paradossalmente, quindi avevo risolto i problemi del mio presente e del mio futuro utilizzando quello che avevo imparato, quello che avevo utilizzato, che avevo già coniato. Ecco, con questa definizione è bello, perché mi dai praticamente il là per fare una bella distinzione a questo punto, perché a questo punto abbiamo capito che esistono, diciamo così, in una persona ne esistono tante in realtà, tutte ovviamente che funzionano sì in maniera autonoma ma sempre guidate da un'unica persona, quindi io potrei distinguere adesso parlando con te appunto Magnetarman, a cui ho dato il nome di questa puntata, però abbiamo capito insomma che tu sei Giuseppe che si divide in tante cose, e assieme a questo c'è sia Magnetarman, però c'è anche il Giuseppe Pugliese che fa il podcaster e il Giuseppe Pugliese invece che fa il musicista. Vorrei partire da quest'ultimo, dal musicista, perché allora chi mi segue sa perfettamente che io per una serie di puntate di Il Mattino Loro in Podcast ho utilizzato la tua musica, e di questo ancora ti ringrazio, perché ho giga della tua musica che spero di poter riutilizzare comunque anche in futuro, nelle puntate che farò in futuro per arrivare al mio 100° episodio come mi sono prefissato. E mi parli un po' della tua idea di musica e perché hai iniziato a farla e perché hai smesso anche. Allora, molto semplicemente, questo è un altro capitolo di me stesso. Paradossalmente, te l'ho detto, già dalla nascita io sono stato bombardato con la musica, ma con la buona musica, perché ovviamente al giorno d'oggi tutti quanti quando dici buona musica si pigliano un pochino collera, come si suol dire da queste parti. Invece credo che bisognerebbe fare una netta distinzione fra quella che è musica di un certo spessore, magari anche musica classica, perché comunque a livello anche di strumenti da piccolo ho suonato per diversi anni il pianoforte, quindi anche musica classica è di un certo livello. Poi come tutte le cose, man mano scendendo ci sono tanti livelli che possono piacere o non piacere ovviamente, però che comunque sono utili nel ragionamento generale, ma che non possono chiamarsi musica, soprattutto quella di oggi, cioè quella di oggi. Adesso siamo arrivati, per quanto mi riguarda, come dice il Francesco di Riperiani, non so se lo conosci, comunque è un canale YouTube che parla di questo software Reaper, lui è un cervellone di rara potenza. Sì, per mi sa che ne ha parlato Alex svariate volte in Tecnopills, ma mi pare di averlo già beccato alcune volte, perché mi è capitato di dover utilizzare Reaper per altre cose in passato e mi pare che qualche tutorial suo l'ho beccato sicuramente. Quindi sì, so chi è. Lui, no, ma infatti lui è stato al conservatorio, poi non so se conosci la sua storia, però in diversi video l'ha spiegata, lui è stato al conservatorio, eccetera. E appunto dice giustamente come la musica, per quanto mi riguarda, la pensiamo in maniera un po' simile, nel senso che la musica al giorno d'oggi si sia parecchio appiattita. Questa cosa l'andavo a pensare già nel 2010, quando ho iniziato a fare musica. Perché mentalmente io vedevo proprio nella musica che ovviamente c'era al periodo, quindi la EDM, la musica elettronica, vedevo proprio un buco. Cioè, nel senso, perché nessuno ha preso, poi mi sono risposto da solo, nessuno ha preso le sonorità dei grandi del passato, nel senso, non prendere il beat anni 80 oppure il giro di synth anni 80, modernizzarlo e farci un brano sopra. Ma perché nessuno aveva ancora preso, da qui i Daft Punk e Alan Parsons, per quanto siano dei generi completamente diversi, sono, in, come scrivo appunto nella mia biografia, sono i miei dei per quanto riguarda la religione, perché loro hanno creato due correnti di pensiero in musica, soprattutto Alan Parsons, che io ancora oggi amo. Cioè, nel senso, la musica deve avvolgerti, deve creare appunto un'emozione parecchio forte quando l'ascolti, ma deve lavorare di riverberi, di espansioni, di magari la stessa nota suonata da due strumenti che però devono lavorare insieme, eccetera eccetera eccetera. E questa cosa, ovviamente, se hai ascoltato Alan Parsons lo capisci benissimo, ma anche avendo ascoltato The Dark Side of the Moon, che è l'album più ascoltato sul pianeta, che pochi sanno che è stato ingegnerizzato da Alan Parsons. Cioè, i Pink Floyd si sono rivolti ad Alan Parsons per fare tutta l'ingegnerizzazione dell'audio, perché in quel periodo i Pink Floyd avevano in mente questa musica e molti gli dissero che appunto questo risultato non si poteva fare. Cioè, roba folle. Secondo loro questo risultato non si poteva raggiungere perché gli strumenti che avevano in quel tempo non avevano abbastanza strumentazione, non avevano abbastanza know-how per creare quell'album. E Alan Parsons gli diede torto, proprio perché lui lavorava da anni a questa cosa, a tutta come, una serie di... Non solo come strumentista, non solo come... Lui è un ingegnere audio a tutti gli effetti. È un ingegnere del suono, infatti. È un ingegnere del suono a tutti gli effetti. È un ingegnere del suono con delle palle che sono forse oscillano fra le 4 e le 5 dimensioni, per quanto mi riguarda. Perché lui, con un paio di ventilatori, dei microfoni ben organizzati, riuscì a inserire il classico riverbero di appunto di tanti pezzi di Dark Side of the Moon, che ancora oggi con i riverberi digitali non ci siamo quasi arrivati ancora, e lui con, te l'ho detto, un paio di pale di ventilatore, un microfono ben piazzato, creò, è una cassa ovviamente che riproduceva il suono standard, è riuscito a creare un suono immersivo, ovviamente analogico, come posso dirti, bello pieno, che noi ancora oggi inseguiamo, e ancora oggi non ci siamo arrivati. E però l'album Dark Side of the Moon è ormai stampato nella roccia, e dire qua, ed è 30 anni, cioè, stampato e ristampato, però effettivamente quella leggenda secondo me non si può. Però ti voglio lanciare la provocazione a questo punto, perché può essere che non si raggiungano certi livelli, nonostante la tecnologia si sia sicuramente evoluta, siamo arrivati a fare delle cose mostruose, cioè si sentono anche a livello di qualità del suono, si possono sentire delle cose che, mettendoti un paio di cuffie, ti sembra quasi di sentire suoni da tutto intorno, non è solamente un effetto stereo, ma è proprio qualcosa di incredibile, sì. No? Però si capisce che non è una questione di potenza di calcolo, non è una questione di che strumenti, di che computer utilizzi, non è questo. Però può essere che non si raggiungano più certi livelli, ma perché proprio la ricerca si sia fermata di certe emozioni, di certe suggestioni. Può essere che la musica in qualche modo si sia fermata nella scolarità perché ha cambiato completamente la sua funzione all'interno della società, secondo te? Guarda, allora, la risposta secondo me è duplice. La prima è che c'è tanta ignoranza, cioè al giorno d'oggi quando hai a che fare, io l'ho avuto nel mio piccolo, perché comunque producendo musica ho prodotto anche musica per altre persone, c'è dell'ignoranza mostruosa, ma partire dalle basi. Ora non scendo nel tecnico perché ovviamente è tutto un discorso particolare, però a livello tecnico chi produce musica, i produttori di musica al giorno d'oggi sono degli scacciacani, cioè non hanno mentalmente proprio, non sanno, cioè i punti base di come si crea non tanto un'armonia, perché anche là basta studiarsi le quattro note andare magari da un pianista e ti fa l'armonia. È proprio come manipolare il suono, che pare una stronzata al giorno d'oggi, che è tutto digitale e quindi possiamo raggiungere, come hai detto tu, delle vette che già prima non avevamo raggiunto. Ma il grossissimo problema è che, proprio perché adesso è digitale, quindi possiamo espanderci, ne è fatto il minimo indispensabile, o ha un suono sia ascoltabile, poi viene subito turpresso, schiacciato, la dinamica viene sostanzialmente mantenuta, e una volta fa questo, noi utilizziamo le cuffiette base, deve ascoltarsi pure l'audio mono del cellulare, e quindi va a uccidere ancora di più, e quindi i produttori non si fa troppi scrupoli, loro devono vendere tot prodotti, perché la musica, come sappiamo, è in crisi nera, ma già da anni, proprio perché non si è perso, secondo me, quella scintilla che c'era prima, e l'appiattimento appunto di questa situazione ha generato quello che, secondo me, vedi tu, non è un problema di manipolazione, è proprio un problema di ignoranza, e del fatto che l'ignoranza unita a appunto degli ascoltatori ignoranti che non ricercano più certe emozioni attraverso la musica ha portato alla situazione di stallo e di crisi nera della musica che c'è oggi, perché appunto, come dice anche Francesco, che lui ci lavora all'interno del mercato discografico e ha contatti comunque con produttori internazionali, lui dice: la musica, lasciate perdere, è morta. Cioè i produttori, le case discografiche devono continuare a dire che la musica va qua, la musica va là, perché devono continuare a vendere, a dare una parvenza di normalità come questo periodo, ma sotto sotto è tutto quanto è diventato marcio, proprio perché al giorno d'oggi i produttori fanno il minimo indispensabile per rilasciare il pezzo, perché poi al giorno d'oggi non vivono di musica, ma vivono di concerti, del merchandising, certo, delle pubblicità, del contorno della loro carriera, più che altro appunto del loro brand, più che della loro effettiva qualità, del loro senso in questo secolo, alla fine. Quindi arrivato a quel punto, loro diventano a tutti gli effetti delle pop star, inteso in maniera dispregiativa, cioè diventano delle macchiette, dei personaggi dello spettacolo a tutti gli effetti, che però la musica se la scordano e se la mettono in secondo piano, perché non è quello che gli fa fare i soldi. Beh, certo. Quindi secondo me quello è il grosso del problema. Bisognerebbe un attimo resettare proprio, ovviamente, l'industria stessa a questo punto. Sì, non succederà mai, però guarda, qualche messaggio al giorno d'oggi ci sta arrivando, perché ovviamente prendi il caso di Billie Eilish, che lascia stare per quanto sia una musica comunque abbastanza piatta, eccetera, però comunque io la apprezzo, francamente è un'artista moderna, una delle poche che ascolto, super moderna, che io la apprezzo veramente tanto. Ma soprattutto è una persona che lei ha registrato insieme al fratello l'album completamente in home studio, e lei è come Taylor Swift, che ha lanciato la propria musica con la sua etichetta discografica. Cioè in questi anni 2000 si stanno succedendo tutta una serie di come posso dire, di crepe in parecchi settori, che stanno cambiando l'equilibrio di tantissime cose in pochissimo tempo. Penso alla musica, penso alla ricerca, penso al campo dell'informatica. Guarda nel 2000 come stavamo messi, guarda adesso. Cioè, hai capito quello che dico? Si stanno succedendo tutta una serie di rotture dello status quo, che secondo me sono fondamentali per farci progredire come umanità. Perché altrimenti, se noi umani, io me ne rendo conto, siamo stupidi. Io parto da questo concetto qua: ci siamo evoluti dalle scimmie, siamo stupidi. Se non ci bastonano continuamente, ci fanno vedere che il futuro è sempre più scuro, è sempre più nero, noi non ci mettiamo con la testa a cercare una soluzione non tanto elegante, ma pragmatica e efficiente per migliorare una situazione. Ci mettiamo nel pozzo più totale e là moriamo. E quello è il grosso del problema. Quindi tutti questi patatrac che si stanno verificando, questi crash del sistema, come si diceva appunto in Matrix, di diversi settori, stanno, secondo me, portando un miglioramento tra virgolette, comunque un cambiamento, perché non è sempre miglioramento, all'interno della situazione. E la musica è uno di questi, credo, perché col fatto della, come dicevi tu, dell'audio 4D, che finalmente si sta iniziando a sperimentare un nuovo modo, perché prima siamo passati dal pianoforte, poi siamo arrivati al sintetizzatore, cioè nel senso prendere un suono elaborato in maniera digitale o anche analogica da diversi componenti, quindi la modulazione dei suoni. Poi siamo diventati polifonici nella modulazione dei suoni. Poi successivamente abbiamo iniziato a fare mischioni dei generi. Pensa all'italo dance, a tutti questi sottogeneri che non fanno nient'altro che mischiare diversi generi classici o moderni fra di loro. Guarda la musica pop come si è aggiornata, cioè nel senso ha fatto mischioni in continuazione, quindi rap con il pop, poi ci hanno messo un po' di musica classica, ci hanno sbattuto dentro di tutto. Quindi dopo aver fatto il mischioni dei generi, bisogna secondo me fare un'altra volta lo step successivo, ovvero potenziare il mezzo. E secondo me questi anni sono ottimi proprio per potenziare il mezzo a livello non tanto computazionale, ma appunto creare finalmente un audio multicanale che però a te venga percepito come 3D a tutti gli effetti. Certo, potenzialmente sicuramente la prima la effetti e maggiormente questità. Pronto? No, dicevo appunto l'immersività. Mi senti? Sì, ti sento. Sì, no, ho capito l'immersività in generale. Ho capito come intendi la cosa, perché effettivamente dici a questo punto bisogna un attimo pensare prima che potenziare di nuovo gli strumenti, di nuovo successivamente dare effettivamente un mezzo proprio per l'ascolto, potenziare e migliorare l'ascolto, è corretto? Sì, perché sostanzialmente almeno quello che cioè ovviamente non è che sono il guru di tutto, questo è quello che fine cioè, si fa per chiacchierare, quello che pensiamo, che penso io, cioè nel senso ormai visto che siamo arrivati, abbiamo già fatto il mischione dei generi, abbiamo già potenziato per quanto riguarda gli strumenti di emissione del suono, adesso lo step successivo è andare a potenziare come il suono viene percepito e viene appunto compresso ed elaborato dal computer, visto che ormai siamo completamente in digitale. È come fare il TikTok dei processori, cioè come quando Intel faceva il TikTok dei processori, cioè un anno andava a migliorare l'architettura, quindi a scendere i nanometri dei processori e a renderli energicamente più efficienti, perché ovviamente miniaturizzando di più ci vuole meno corrente per alimentare un qualsiasi componente, e l'anno dopo invece andava a migliorare quell'interfaccia, quindi non andava a ulteriormente miniaturizzare, ma rimaneva su quel processo produttivo e andava a creare delle ottimizzazioni di quel processore per renderlo ancora più efficiente, e poi si ritornava questo processo ritornava appunto da capo. Stessa cosa secondo me è fattibilissima per la musica, cioè nel senso, visto che adesso abbiamo fatto già i primi due step, credo che gli step li abbiamo fatti tutti, adesso sarebbe consono resettare tutto e ripartire dal miglioramento dell'ascolto, di come l'audio da come l'audio viene fruito, perché nel 2020, porca miseria, non si può ascoltare un album con le cuffiette da 4 euro dei cinesi su Spotify che comprime l'audio in una maniera indegna. Cioè è una cosa assurda, perché chi ne capisce bene di audio sa che la compressione bastarda di Spotify, sia a livello di bitrate, quindi di informazioni audio, sia proprio la compressione che utilizzano i produttori per schiacciare il suono tutto insieme nel minor spazio possibile e quindi quindi rendere ascoltabile il pezzo da più strumenti di riproduzione possibili, certo, spesso piazzare particolarmente tutto quello che è più accessibile alle tasche e alle casse di chiunque, insomma. Questa cosa sta distruggendo, secondo me, ha distrutto l'amore che si ha per la musica, perché la musica sta diventando, non so se ci hai fatto caso, un po' tutto uguale, un po' tutta piatta. E questa cosa mi spinse appunto a iniziare a scrivere musica, perché si era perso questo audio 3D. Io da Alan Parsons copiai spudoratamente questa cosa, perché se senti tra virgolette i pezzi che ho scritto, sono dei brani che comunque lavorano con il surround, lavorano con le emozioni, ma soprattutto cercano di spiegare qualcosa. Su questo però ti vorrei interrompere a questo punto, perché prima di addentrarci proprio nello specifico in quello che hai fatto tu, a questo punto mi vorrei prendere qualche minuto proprio per far sentire uno dei tuoi pezzi. E mi sono tenuto qua un po' della tua discografia, ovviamente. E quindi abbassiamo un attimo il tappeto musicale qui per presentare adeguatamente il pezzo. Perché adesso, qui, di Giuseppe Pugliese, tratto dall'album I'm Back 3.0 del 2011, andiamo a sentirci Dance Forever. Forever dall'album 3.0 del 2011, di nuovo qui. Giuseppe, tu te lo ricordavi questo pezzo così che hai scritto un bel po' di anni fa? Sì, addirittura ricordo ogni singola nota. Queste erano una delle mie prime prove per quanto riguardava appunto il fatto proprio di utilizzare dei suoni che girassero intorno alla persona. Infatti non so se te ne sei accorto, quel suono che sembra appunto quel suono molto, come posso dirti, elettronico, cercava di girare attraverso tutta una serie di panne, eccetera, cercava di girare intorno alla persona. Poi ovviamente questa cosa ha preso il sopravvento ed è diventata fondamentale nell'ultimo album, che pure abbiamo ascoltato sulle precedenti episodi, che sono quello di appunto In Jade, qual era quell'altra? Comunque l'ultimo album che ho fatto, Bibble, racchiude un pochino tutti questi esperimenti fatti durante gli anni. Perché hai smesso di fare musica? Ho smesso di fare musica perché sostanzialmente per due problemi principali. Allora, facevo musica con il Mac, perché ho avuto anche io il Mac per diversi anni, dal 2009 fino al 2013, e poi sono deceduti per cause naturali, tra molte virgolette, e il programma che utilizzavo, Logic, aveva un motore di rendering dell'audio che ancora oggi fa paura. E ho smesso di fare musica sia perché avevo tutta una serie di progetti, tant'è vero che stavo scrivendo il nuovo album su Logic, e ho deciso di metterlo un attimo in pausa. Poi sai come succedono queste cose, metti in pausa, poi succede qualcosa, poi succede qualcun'altra, sì, ma tanto poi lo riprendo, e il tutto poi ho deciso di chiudere definitivamente con la musica, anche perché avevo anche finito le idee, mi ero reso conto di iniziare a diventare ripetitivo, non più un tra virgolette fresco, e quindi ho deciso di fare Bibble nel 2015, che era l'ultimo album, cioè che condensava tutto il lavoro fatto. Ovviamente i pezzi erano stati rimasterizzati, rieditati. Per un nome bello altisonante, poi hai scelto per concludere. Insomma, sì, infatti, e appunto decisi di chiudere con Bibble, premettendomi di fare, perché al tempo quando chiusi con Bibble era il 2015, dicendo forse nel 2019 avrò ancora qualcosa da dire, e volevo fare un album che si chiama ancora Black Roses, che però non è mai uscito, perché mi sono reso conto che tra il mio lavoro di web design stava prendendo il sopravvento, comunque avevo altre cose da fare e non mi sentivo ancora pronto a rientrare. Io poi sono così, cioè nel senso, quando faccio qualcosa, quando per me è finita, cioè non è che poi rientro, esco, però se decido di rientrare, devo rientrare come Cristo comanda, facendo qualcosa di un certo livello, non rientrando così giusto per, non so se mi sono spiegato. Sì, sicuramente si vede che tu ti vuoi sempre buttare a capofitto in maniera molto, non dico pesante, però in maniera convinta nei tuoi progetti. E infatti vorrei passare a questo punto da progetto in progetto, perché sì, hai mollato sicuramente le tastiere e certi dispositivi di registrazione, sicuramente, ma non hai mollato il lavoro sull'audio, perché a questo punto possiamo introdurre effettivamente la tua ultima trasformazione, il tuo ultimo essere uscito dal bozzolo per trasformarti in una bellissima farfalla, e questa farfalla effettivamente è un canale su Spreaker, comunque si è concretizzato prima con un podcast e poi con un secondo podcast. Io vorrei innanzitutto chiederti perché, prima lo presento, perché Giuseppe a un certo punto si è unito, diciamo così, alla squadra di tecnici, di Uber tecnici, che si sono effettivamente riuniti sotto al tetto del canale Telegram, del gruppo Telegram Tecnopills Riot, che praticamente è stato fondato dal podcaster Alex Raccuglia, che spero un giorno di riuscire ad intervistare sempre qui su Morfeo, che appunto ha voluto riunire un po' queste, non solo i suoi ascoltatori, ma anche menti geniali, tra cui quella di Giuseppe, sotto questo grosso cappello chiamato Tecnopills Riot. E a un certo punto Giuseppe ha deciso di prendere così, di iniziare un nuovo progetto chiamato Caffè Riot, in cui commentava sostanzialmente le puntate, no scusa, non le puntate, ma anzi non solo, però commentava più che altro i topic che si susseguivano proprio all'interno di questo gruppo. Come ti è venuta l'idea di Caffè Riot? Come hai pensato di svilupparlo? Ma soprattutto perché poi si è concluso questo progetto? Perché io lo so, perché l'ho ascoltato. E poi col senno di poi, cosa ti ha portato effettivamente alla chiusura di questo progetto? Allora, qui c'è la prima differenza sostanziale nella mia vita. Nel senso che, come ho detto prima, io arrivato a un certo punto ho deciso di cacciare via fuori tutti quanti. Cioè, nel senso, chi aveva dei commenti da fare su quello che facevo, li stavo ad ascoltare, però ovviamente li soppesavo anche in maniera molto ragionata. Mentre chi aveva solo da commentare e basta, lo mutavo automaticamente, oppure lo relegavo a rumore di fondo, parlando di audio. Quando, ho iniziato, come al solito, io prima di entrare in qualcosa sono sempre agguato nell'ombra, perché per quanto riguarda i podcast io comunque ebbi come regalo un iPod, si chiamava White, Kombat, se non mi sbaglio, ed era del 2004-2005, ed è stato il mio primo dispositivo Apple. Quando appunto sono passato poi di nuovo a Apple nel 2009-2010, ho scoperto i podcast per caso e ho iniziato ad ascoltare innanzitutto, ora non ricordo qual era, aspetta. Sì, in effetti posso dirti una cosa, anch'io ho iniziato ad approcciarmi i podcast più che altro quando ho avuto fra le mani un iPod Touch che mi era stato regalato per Natale. Effettivamente Apple sembra tenerci un po' di più rispetto ad altre piattaforme, in realtà, insomma, per i podcast, e anzi è molto più facile reperire podcast attraverso Apple. Vabbè, questa è una nota personale, così, no, vai avanti. Apple, guarda, è stata la capostipite del podcast, cioè Steve Jobs stesso era fissato con i podcast e pensava che appunto i podcast sarebbero stati la nuova rivoluzione prima dell'iPhone, perché quando appunto noi purtroppo da italiani non credo che riusciamo ad entrare un attimo nella forma mentis, però chi è americano sa bene che per quanto riguarda le fonti di informazioni prima dell'internet, vabbè, 3.0 come lo chiamiamo adesso, quindi blog, Facebook, tutto quanto, le informazioni erano veicolate da poche persone, perché si sa che in America c'è il capitalismo più sfrenato, quelli ti fanno pagare la sanità, figurati l'accesso all'istruzione che costa un botto, e quindi stesso Steve Jobs, che lui si è sentito sempre un graziato proprio perché è riuscito a fare un po' tutto quello che voleva, cercò di spingere in maniera pesante i podcast, perché all'inizio nacquero nelle università appunto come metodo di scambio di lezioni, proprio per favorire la cultura, perché ti ripeto, lui non l'ha mai detto pubblicamente, però dal suo libro che io ho letto si... Pronto? Mi senti? Ah sì, adesso sì. Mi senti? Sì, adesso okay. Ti sento. Appunto, dopo aver letto il libro, appunto, ho capito tra le righe, penso di aver capito, spero di aver capito correttamente, che lui appunto voleva dare questo boost pesante alla cultura. E quindi i podcast erano un mezzo ottimo per distribuire in maniera gratuita, oppure ad un costo relativamente basso anche di produzione, la cultura. E quindi appunto Apple si è focalizzata abbastanza sui podcast. E anche tu poi ci sei buttato a capofitto a un certo punto. Sì, perché io ascoltavo diversi... Allora, io ho iniziato ad ascoltare podcast appunto, come ti ho detto, parecchio tempo fa. Poi ascoltavo podcast principalmente riguardante Apple, come i C Apple, eccetera. Poi ho iniziato ad ascoltare Digitalia. Digitalia a un certo punto mi aveva appallato, perché utilizzava un sistema che a me non piace, cioè nel senso le notizie erano trattate in maniera poco tecnica, e non so per quale motivo appunto nell'applicazione podcast, fra quelli che ti consigliava appunto stesso iTunes, mi uscì Archeologia Videoludica, se non mi sbaglio, e qui fu il mio primo attacco, cioè nel senso la prima volta che iniziai a scoprire il PC World, come si suol dire, cioè trattasi appunto Runtime Radio. Sì, quella che adesso si chiama Runtime Radio, ma che all'epoca si chiamava IPN, Italian Podcast Network, che appunto aveva pochi podcast al di sotto, ma già Pizzi stava lavorando per farla diventare quella che poi è diventata. Cioè loro già facevano archeologia informatica, no, facevano retrologia informatica, vedevo, oppure non mi ricordo, perché ce ne stavano diversi di podcast, e comunque mi iniziai ad abbonare come un drogato in cerca della sua dose, tutti i podcast di IPN, e iniziai a sentire questa voce, che era un cazzaro di rara potenza, e appunto si prendeva il nome di Alex Raguglia, che tempestava quei podcast in maniera sempre come posso dirti, come la parte comica, la parte scherzosa. Quando iniziai a sentire che lui aveva fatto un podcast, ovvero aveva inaugurato appunto Tecnopilz, iniziai a seguirlo. Poi il resto e storia, cioè nel senso, lui martellava pesantemente con questo gruppo Telegram, io Telegram già lo utilizzavo da un po', e decisi di iscrivermi. All'inizio non parlavo, vedevo solo, poi più di qualche volta avevano dei discorsi che erano pertinenti a quello che mi interessava, e forse avevano bisogno di una mano. Iniziai appunto a rispondere e divenni sempre più attivo fino sostanzialmente a venire, non lo so, più di qualche volta Alex comunque ebbe diversi scambi con me, sia di messaggi privati, di audio, eccetera. E a un certo punto disse un giorno, non mi ricordo per quale motivo, per scherzo feci questo audio di 30 secondi in riassunto di non mi ricordo chi, che non c'era potuto stare giornalmente all'interno del gruppo, riguardante appunto cosa di cui si era parlato, sempre in tono cazzaro. E Alex mi contattò, mi disse: guarda, senti, fanni un podcast perché è divertente, è anche per ammazzare il tempo, è simpatico, lo devi fare. Ovviamente quindi è stata proprio una richiesta del capo, se vogliamo. Sì. Io ho ancora il messaggio vocale salvato, perché io poi sono un maniaco del salvare cose, quindi del backup, queste cose, se vogliamo. Sì. Io me le tengo appunto come dei cimeli a tutti gli effetti, perché io di Alex ne ho un ottimo concetto, e per me è una persona di un certo calibro. Quindi quando qualcuno come lui ti dice qualcosa, è come per la vecchietta di quartiere che ti arriva Papa Francesco e ti dice: tu devi fare questa cosa. Allora tu ti senti effettivamente un attimo invogliato da un potere superiore che ti dice: questa cosa la devi fare. E così nacque Caffè Riot, appunto questo su Spreaker, la versione gratuita di Spreaker, che appunto era questo podcast di pochi minuti dove riassumivo in maniera simpatica appunto di quello che si era detto nel Riot. Facendo podcast col cellulare, al periodo poi mi resi conto che c'era un problema grosso quanto una casa, nel senso che io quando andavo dai clienti, in generale per il mio lavoro da web designer, avevano non delle lacune, delle voragini, veramente erano delle voragini, e soprattutto quelli che dovrei chiamare i miei colleghi, ma sotto sotto vorrei prenderli a calci, non ti dico dove, avevano instillato, e poi c'ho anche dei casi reali di clienti che ho acquisito proprio per questo motivo, di persone che erano state proprio maltrattate, cioè proprio erano state maltrattate psicologicamente e anche lavorativamente, cioè erano state messe in soggezione da questa persona. Trattate un po' da idioti, insomma. Ma addirittura peggio, addirittura con delle minacce, cioè io non posso fare nomi perché ovviamente c'è la privacy, ma io alcuni miei clienti hanno ricevuto delle minacce da queste persone che se non facevano come diceva questo, lui gli avrebbe oscurato e reso impossibile la vita, cioè comunque siti di cose, cioè dei siti sia vetrina ma anche di e-commerce eccetera, cioè roba che con cui loro portavano il pane a casa, cioè questa gente è veramente da far campare nelle fogne per un po' di tempo. Cioè, questo lato violento del tuo mestiere, francamente, non me lo aspettavo. Ce ne stanno diversi di personaggi così, e di storie ne ho parecchie da raccontare. Però per dirti, e questa cosa mi creò un cortocircuito grosso, non lo so, quanto una casa, assurdo, veramente. E dissi: no, raga, non è possibile, cioè io non ci credo. Mi sentii veramente, mi ricordo ancora, era un pomeriggio, pioveva anche, quindi era da film la cosa. Mi sentii proprio, anche se era agosto, quindi facevo quelle, era luglio-agosto, quindi facevano quei brevi piovaschi classici estivi. E allora mi sentii proprio depresso, dici: non è possibile, perché qua nessuno non fa qualcosa, cioè nel senso, neanche li istruisce, ma gli dà gli strumenti per anche basici per capire se questo è uno stronzo oppure è una persona competente. È una persona competente, oppure in generale di non sottostare a il bello e il cattivo tempo di queste persone. E allora gli parlai un po' ad Alex, gli dissi: guarda, io vorrei, ci ho pensato, così con la, gli mandai un audio, mi pare di 3-4 minuti, una cosa assurda, tant'è vero mi pare che Alex per dei giorni non mi rispose, ho detto ok, mi sono giocato quella pseudo confidenza che tengo, però mi rispose e mi disse: no, guarda, lo devi fare assolutamente, perché io avevo visto anche nel panorama podcast non c'era niente che avesse appunto questi crismi, soprattutto dal lato molto tecnico, approcciavano tutti l'informatica in generale, cioè nel senso: vedete quanto è bello il mio computer, così si smontano i pezzi, così si fa questo, così si fa quell'altro. E, era un po' pornografico, se vogliamo, sì, sotto questo aspetto. Molto, sì, poi soprattutto c'era l'unico podcast di informatica, e sì, Apple, però parlano soprattutto di roba Apple, ma ne parlano in maniera molto leggera, comunque intrattenimento, mentre io volevo proprio entrare. Cioè, questa cosa anche dei podcast molto moderni, se hai notato che gli argomenti diventano sempre hai notato. Che... Sì, la verticalità estrema dei podcast. E questa cosa, paradossalmente, a me ha illuminato una stanza, perché non è nient'altro che appunto come andarti a seguire la lezione all'università, però ovviamente dispiegata in più tempo, e te la puoi fruire quando cavolo ti pare a te. Sì. Cioè, aspetto che l'università, che dovrebbe essere la promotrice di del sapere in generale, abbia abbastanza, soprattutto in Italia, cioè in Italia i podcast, che io sappia, dell'università non lo fa nessuno. No, io, per dirti altri argomenti che ho seguito, ti posso dire uno, forse uno dei pochi argomenti che la tratta più in una maniera universitaria oppure di conferenze così, sono gli argomenti legati per esempio alla filosofia o alla teologia addirittura. Cioè, sì. Attraverso i podcast puoi trovare veramente intere conferenze in cui si esplorano i lati più nascosti, per esempio, della religione o degli argomenti filosofici o comunque umanisti in generale. Però sì, a livello di tecnologia e queste cose non mi sembra che ce ne sia. Io non sono esperto di questi podcast, ma mi immagino comunque che sia un po' più difficile trovarli effettivamente. No, perché infatti mi sono fatto una ricerca di mercato, ovviamente partendo dal concetto di che lavoro faccio, ho fatto una ricerca di mercato e ho testato il mezzo. Cioè, nel senso, io mi sono proprio reso conto che nel mio campo non c'era nessuno. C'era neanche un cane, come si suol dire. Non c'era proprio nessuno, e soprattutto... Però c'era domanda comunque, c'era una richiesta secondo te, c'era un bisogno effettivamente di occupare quella nicchia. Ma effettivamente, guarda, devo dirti la verità, questa cosa mi ucciderà dal lato professionale, però io non mi ero fatto per nulla i conti per quanto riguarda quelli che i conti si dovrebbero fare. Cioè, un web designer quando va a fare un sito dovrebbe farsi dei conti anche di domande e di offerta. Io quelli non me li ero proprio fatti. Cioè, ero partito dal concetto che Alex più quelli del Riot mi dissero: guarda, a me piacerebbe ascoltare un podcast del genere, perché paradossalmente loro, che veramente, come li hai descritti tu, per me, cioè, come dico sempre anche all'interno del Riot, se finisce il mondo chiudete quella gente in un bunker, perché l'umanità deve ripartire da loro. Cioè, là ci sta, là ci sta di tutto, veramente di tutto. Cioè, là ci stanno persone che lavorano agli impianti, come si chiama, gli impianti nucleari, ci sono fisici, cioè ci sono persone che comunque capiscono di fisica, c'è Alex che in bene o male è molto competente sia in programmazione sia in audio, c'è Gatti che è un tuttofare, cioè non è che stiamo parlando del gruppetto, come dice Alex, WhatsApp delle mammine pancine, che là si ride e si scherza. Là veramente effettivamente ci se ne potrebbe fare un'università a parte, perché comunque c'è gente con gli attributi. E quindi, appunto, proprio perché ne ho molta stima di loro, mi dissero: guarda, fai questa cosa perché a noi potrebbe risultare utile e andresti a toccare un nervo scoperto, perché paradossalmente nessuno di noi è molto molto competente in questo campo. Io mi sentii come sostanzialmente Zeus tutto in una volta, cioè proprio pieno di fulmini e di potenza e di power, e appunto dissi: va bene, iniziamo questo podcast. Ed è iniziato Glitch a questo punto. Ed è iniziato Glitch con sempre da cellulare, e poi si è evoluto ovviamente mettendoci un pochino più di conoscenza pregressa, perché in una puntata, appunto le prime 6-7 puntate sono veramente assurde, ogni tanto le riascolto in offline per non alterarmi le metriche, le riascolto in offline con i backup che tengo, e effettivamente sono abbastanza inascoltabili, perché il cellulare, il fatto che non facevo compressione, che poi paradossalmente Alex mi fece un vocale di ramanzina e aveva ragione. Cioè, io avevo così tanta nozione di audio pregressa per la musica, cioè, ma perché cazzo non ci avevo buttato quei 2 minuti per pensare un setup, una cosa, per far uscire perché ne avevi ancora capito l'effettivo potenziale, lo trattavi ancora come un qualcosa che potevi lasciare ancora, diciamo così, nel più che altro nell'iperuranio delle possibilità, più che un podcast effettivo su cui buttarci tanto. sincero non lo so, perché ogni tanto io ho questi problemi, la gente che mi conosce ormai è abituata a comprendermi. Io paradossalmente posso farti parlando di più e del meno possiamo arrivare a costruire un reattore nucleare, la macchina del tempo, ma ogni tanto mi inceppo su delle stronzate e non le vedo proprio, succede così, veramente succede così. E allora tant'è vero che poi da quella puntata là iniziai iniziai a renderlo una cosa seria, cioè nel senso avere una programmaticità, avere degli argomenti che venivano anche ripetuti, cioè erano perpetrati in più puntate per non essere appunto prolisso, perché il mio focus era puntate brevi di 8-10 minuti massimo che diano quella nozione o quella pillola o quel concetto, però poi devi essere tu a farlo evolvere in te e poi magari farmi sapere cosa non hai capito. Sarebbe uscita una data di WAP. Quest'anno appunto mi sono buttato su un altro che su Riot aveva fatto uscire pazzi tutti, ovvero questo dannato fatto del server domestico, e io lo reiteravo a più riprese del backup del server domestico, e allora dicono allora facci una puntata anche di un'ora. E io gli dissi, ragazzi, purtroppo una non basterebbe. Mentre tutto io mi sono per 2 anni e mezzo su FreeNAS, cioè sullo studio, eccetera, di come vengano fatti. E ne hai costruito uno a casa tua, da quanto mi ricordo. Sì, io ce n'ho uno a casa mia che appunto fa diverse cose, proprio perché io avevo questa necessità. E poi, continuando a studiare, appunto quest'anno stiamo facendo la serie sul server. Allora, adesso ho ripreso un attimo il mio telefono dove ho effettivamente il tuo podcast salvato, perché sono un tuo ascoltatore, ovviamente. Siamo arrivati a 31 episodi, sei arrivato a 31 episodi divisi in 2 stagioni. L'ultima puntata è la 2.7. E mi ricordo però, tu hai parlato veramente di tantissimi argomenti dentro Glitch, veramente ci hai messo un po' di tutto, hai fatto veramente un purpurri, veramente. Una delle puntate che io principalmente mi ricordo, perché non so, forse perché era un po' più vicina alla mia persona, forse, e l'ho anche consigliata attraverso un hashtag che avevo iniziato proprio per te in realtà, cioè avevo iniziato a consigliare attraverso questo hashtag che l'ho chiamato TripAdvisor, un po' per scimmiottare TripAdvisor in realtà. Sì. E tu hai fatto un episodio, adesso sto scorrendo un attimo la cosa per vedere se lo ritrovo, ma non mi ricordo francamente, non mi ricordo il titolo, sulla Disney. Quello della D23. Esatto, quello della D23, perché effettivamente tu ti sei, eccolo qua, infatti puntata del 24 agosto del 2019, ed è un episodio secondo me bello, perché ti sei fatto veramente la cronistoria di tutta la Disney, di quello che significa questo brand, di quanto ha guadagnato, di quanto è stato importante e dei suoi passi cruciali. Io ho trovato quella narrazione particolarmente funzionale, una narrazione che ti metteva effettivamente, ti faceva un attimo capire di chi stavamo parlando e di quanto fosse importante questo brand. Non lo so, a me mi aveva molto colpito questo tuo modo di raccontare, di rapportarti con queste cose. In un altro episodio invece, e c'era una domanda, in un altro episodio che adesso non ricordo quale, tu consigliasti la visione di un documentario di cui parlammo anche attraverso qualche audio io e te, attraverso scambi privato. Nella mente di Bill Gates, esatto, era un documentario proprio su questo, che è su Netflix, 3 puntate veramente che io mi una sera, perché effettivamente è molto interessante ed è un documentario, vado un attimo a riassumerlo, in cui Bill Gates praticamente attraverso questo giornalista gli fa delle domande, ripercorre un po' la sua storia, però è bello perché praticamente accosta ai momenti della sua storia però 3 problemi che lui cercava per l'appunto di risolvere, che ha cercato di risolvere attraverso la tecnologia e la sua fondazione benefica che ha fondato assieme a sua moglie Melinda Gates. In quell'episodio ti eri molto concentrato su di una domanda, ossia su come la tecnologia per Bill Gates in qualche modo era intesa più che altro come uno strumento di risoluzione dei problemi, come noi possiamo utilizzare, come noi possiamo sfruttare le nostre risorse al meglio per risolvere il problema. Ora, io però vorrei farti, vorrei fare un attimo un accostamento. Perché, per esempio, io sono, penso che tu, anche tu lo sia, di Data Nightmare. Tu lo ascolti Data Nightmare? Certo, ovviamente. Chi non ascolterebbe Data Nightmare? Che se non lo ascoltate, malissimo, dovete farlo assolutamente. Perché lui, per esempio, ha un, secondo me, ha un approccio molto diverso. Perché lui in un episodio, in più episodi, aveva praticamente detto, aveva riportato le parole del suo professore, Walter Mercier, ha riportato le parole di questo professore che diceva che, secondo lui, la tecnologia in realtà non riuscirà mai a risolvere determinati problemi, ma solo a spostarli. Perché nuove tecnologie per, tra virgolette, questo problema, e non faremo altro che spostarlo in avanti. Tu come ti poni? Come, vicino a quale filosofia ti trovi? Domandone. Allora, lo so, questa, che... no, questa non era preparata nella nostra scaletta. No, vabbè, so, a me però... piacciono queste domande, anche perché effettivamente, a parte il fatto che potrei impappinarmi qualche volta, cioè nel senso potrei impappinarmi come spesso faccio, però ancora per fortuna le mie sinapsi mi danno la possibilità di creare un'argomentazione, qualcosa di produttivo. Allora, è un domandone, perché per quanto mi riguarda io... allora, io lo ascolto Data Nightmare e credo che Walter Vannini sia l'eroe di cui avevamo bisogno, ma non come al solito, come dice la classica. Ci meritiamo, esattamente. Bravissimo. Perché lui ha una visione del mondo che è giustissima. Cioè io, paradossalmente, da web designer, quindi da una persona che comunque ha a che fare con quello che è l'enorme meccanismo dei social network e delle pubblicità, eccetera, anche contro il mio lavoro, e io l'ho sempre detto ai miei clienti, non posso che non dargli ragione, altrimenti risulterei una persona che non è coerente con se stessa, nel senso che tutto il ragionamento che lui fa della tecnologia è corretto, ma per quanto mi riguarda ha un ma grosso quanto una casa. Io la tecnologia, per quanto mi riguarda, lui ovviamente è super pessimista, e da super pessimista anche io lo capisco, però per quanto riguarda la tecnologia e quello che gli umani sono riusciti a fare negli ultimi 20 anni di questo secolo, che è più o meno l'età che ricordo, perché ancora non sono eterno, ma quando lo diventerò potrò cambiare la mia idea, col tempo ovviamente. Gli umani in questo ventennio, per quanto mi riguarda, sono riusciti a creare tutto un ecosistema che prima sostanzialmente non esisteva, e mi spiego meglio. Io la tecnologia la vivo un pochino come disse, se non mi sbaglio, ma potrei sicuramente sbagliarmi, come disse, non mi ricordo se era Einstein oppure qualcuno della sua cricca, in relazione affermi di quando appunto creò quello che è l'incipit per la bomba atomica, nel senso che lui, Enrico Fermi, insieme a tutto un pool di scienziati, Einstein compreso, perché la teoria della relatività di Einstein fu cruciale per quanto riguarda appunto anche tutto il discorso delle energie rinnovabili, dell'energia nucleare, eccetera, Enrico Fermi lui ebbe solo un'intuizione che, a seconda di come in quali mani veniva messe, poteva essere una cosa positiva o una cosa fortemente negativa. Perché appunto l'enunciazione di Enrico Fermi e poi successivamente tutta la teoria della relatività di Einstein e a susseguirsi per quanto riguarda l'energia nucleare può essere utilizzata sia, e mi ricollego anche a Bill Gates, per la produzione pulita a tutti gli effetti di elettricità, che è uno dei grossi cancri che ormai ci portiamo avanti da 40 anni, ovvero il petrolio, che purtroppo che sta aumentando i livelli di CO2 comunque, e una delle cose effettivamente che ci ricorda il commentario su Bill Gates, effettivamente. Sì, a parte questo, la CO2, i metodi di trivellazione degli americani che distruggono interi ecosistemi solo perché hanno un sistema un pochino più un mercato rispetto alla classica trivellazione che utilizzano. Per non parlare delle guerre a questo punto, anche che lasciamo stare l'inquinamento del pianeta, la situazione che il petrolio, come alcuni sanno, sta finendo ma non sta finendo. Mi spiego meglio. Nel senso che anche qui, essendo curioso, mi ne sono fatto una vagonata di studi, di ricerca. In pratica il petrolio deve essere estratto. Da qui credo che sia tranquillo per tutti come ragionamento. Esatto. L'estrazione del petrolio, dicono che molti dicono che il petrolio sta finendo perché sta finendo nei posti dove la trivellazione è ancora, tra virgolette, per le aziende profittevole a livello di costi. Ma noi abbiamo utilizzato mediamente, secondo degli studi che sono stati aggiornati fino al 2014 di diversi ricercatori in giro per il globo, stimano che noi in questi 40 anni abbiamo consumato mediamente fra il 2 e il 3% del petrolio totale presente sul pianeta. Perché la maggior parte del petrolio noi tecnicamente non lo potremmo estrarre mai, ed è tutto quello incamerato all'interno del permafrost e dei ghiacci perenni nelle calotte. Il grosso sta là. E noi, a meno che non vogliamo andare a trivellare chilometri e chilometri di ghiaccio, che vabbè si sta sciogliendo, però comunque il permafrost è ancora enorme, non ci arriveremo mai. Per cui dobbiamo trovare una soluzione. Oppure può essere utilizzata, come appunto abbiamo il bruttissimo esempio di Hiroshima e Nagasaki, che potrebbe, questa energia nucleare, inserita all'interno di un pistolotto, con un pochino di polvere da sparo e un accendisigari, perché tecnicamente i metodi di innesco della bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki erano rudimentali quando un accendisigari, può creare una distruzione che ancora oggi è... Ce la ricordiamo. E ancora oggi è sentito. Poi ovviamente Chernobyl è l'emblema di quello che è il problema delle radiazioni derivate da questa energia nucleare. Per cui io la tecnologia la vedo nella stessa maniera, dipende da chi la utilizza. E purtroppo mi dispiace dire, dopo aver visto anche serie TV in merito, come Mr. Robot, che in maniera abbastanza cervellotica, non è una serie per tutti, però mi ha trovato fortemente d'accordo, la tecnologia purtroppo è in mano a chi non dovrebbe averla. Cioè, nel senso, è in mano a chi spesso è pieno di soldi, ha la competenza e l'intelligenza di un carciofo, perché così è, e utilizza questi mezzi in maniera poco profittevole rispetto a quello che potrebbero essere. O ancora peggio, se non ha la mentalità di un carciofo, ma è abbastanza intelligente da capire il mezzo come viene utilizzato e lo utilizzi in quel modo, sfocia, secondo me, nel criminale contro l'umanità. Poi, ai posteri, l'ardua sentenza. Nel senso che la tecnologia al giorno d'oggi viene gestita, come appunto dice anche Vannini, ma come ben sappiamo, per i social network, che sostanzialmente sono una stronzata colossale. Perché quando tu hai lo 0,0% di tutto quello che si potrebbe fare al giorno d'oggi, sì, certo. Perché tu su social network alla fine fai quello che era le chiacchiere di paese, intasi server, intasi internet, la rete di cacca, quando tu la potresti utilizzare in tutt'altro modo. Poi ovviamente, se hai visto una serie come Person of Interest, che è stata scritta dal fratello di Christopher Nolan, e ad averne di fratelli così, non so se l'hai vista. Purtroppo no. Se la recuperi, poi ci sarebbe da farne un ragionamento a priori, perché ovviamente ne è uscita nel 2009-2010, comunque in pratica... È quella serie che parla della morte del presidente americano e del... No. Allora, Person of Interest, preoccupare. Person of Interest parte da un concetto molto semplice. Un brillantissimo programmatore che, diciamo, nella sua vita aveva fatto decine, se non centinaia di milioni vendendo tecnologia a buon mercato. Purtroppo nel 2001, sappiamo tutti l'11 settembre 2001 cosa succede. Mi rimane così, ovviamente sto semplificando moltissimo perché sono 5 stagioni, è bella, stop. In pratica, dopo l'11 settembre 2001, decide che le persone non devono perdere la loro privacy per permettere al governo di riuscire ad evitare altri 11 settembre. E in pratica lui costruisce una macchina, appunto intelligenza artificiale a tutti gli effetti, che riesca avendo appunto a che fare, avendo attaccati il feed di tutte le telecamere presenti all'interno di New York, quindi Manhattan eccetera, ma soprattutto di i social network che lui scherzosamente dice di aver creato stesso lui, poi di aver donato alla ricerca per avere più informazioni possibili da dare in pasto a questa macchina, certo, in modo che si evitino altri 11 settembre. E la serie lavora su questo what if, nel senso che ovviamente, visto che lui nella programmazione della macchina, una volta che finisce di programmarla e la testa inizia a ricevere una valanga di dati, veramente una valanga mostruosa di dati, basta vedere gli abitanti di New York e Manhattan quanti sono, decide, sotto pressione del governo, di fare questo switch. I numeri della macchina vengono identificati in rilevanti e non rilevanti. I numeri rilevanti, che sono appunto i numeri della previdenza sociale, perché questa macchina lui la ingegnerizza per essere totalmente privacy, diciamo, al giorno d'oggi diremmo molto attendente al GPR, al GDPR. Lei non rilascia nessun tipo di dato, quindi nessun nome, nessun cognome, solo il numero di previdenza sociale di quella persona, che può essere sia una vittima ma anche un carnefice. Quindi non si può sapere se appunto è una vittima oppure un oppositore, un problema, e utilizza solo il numero di previdenza sociale, che sarebbe il nostro identificativo appunto delle carte di identità a tutti gli effetti, e gli rilevanti vengono divisi dai non rilevanti a seconda di quante vite vanno ad intaccare. Se vanno ad intaccare più vite, quindi sono un danno per la collettività comune, vengono inseriti nella lista, questa macchina li inserisce nella lista dei rilevanti, e vengono automaticamente inviate al Pentagono, a Washington, in modo che la CIA, i servizi segreti possano neutralizzarli, mentre i non rilevanti vengono semplicemente cancellati a mezzanotte ogni giorno. Quindi praticamente poi scopriremo che questi irrilevanti, lui poi ti spiegherà durante la prima stagione, che dopo che gli è successa una cosa, che non posso dire perché sennò è uno spoiler mega galattico, decide di contattare una persona, appunto un militare, con cui avrà a che fare, e prende deciderà di aprirsi un terminale per la macchina, una backdoor, dove prima di resettare i numeri di previdenza sociale a mezzanotte, glieli invia in modo che loro abbiano 24/48 ore di tempo prima che possa succedere qualcosa a quella persona. E questo è l'incipit di questa serie, che ha avuto 5 stagioni e si apre in una maniera spettacolare e si chiude con le lacrime agli occhi, perché io vi giuro, io non piango mai. Ho pianto in 3 occasioni, ovvero alla fine di Wall-E, il film della Pixar, dopo aver visto quelli di cui hai parlato, effettivamente io piango pochissime volte, cioè veramente sono una persona molto burbera, però ho pianto per Wall-E, ho pianto per questa serie, e la terza volta neanche mi ricordo, ma comunque era per un film della Disney, che comunque, sai, le Disney Pixar ci fa piangere parecchio. Ah, per l'ultimo Toy Story, non vi dico niente. Beh sì, effettivamente tutti questi prodotti possono colpire un po' tutti qua. E confermo, Wall-E effettivamente fa il suo dovere come film. Ma mettendoci un attimo sulla miniserie, quella lì su Bill Gates, perché c'è un'altra domanda che mi piacerebbe a questo punto, perché avevi toccato una questione mentre parlavamo ancora di glitch che era interessante da trattare, ma anche adesso, riprendendo anche questo discorso che stavamo facendo adesso, è interessante farlo, perché a un certo punto, non so se ti ricordi, nella serie a un certo punto l'antitrust addirittura marcia contro Bill Gates. Vediamo proprio che lui a un certo punto ha un problema, perché Microsoft fa un grande successo, cioè sta avendo tutto questo grandissimo successo, e lui si ritrova effettivamente a parlare con la commissione dell'antitrust, che gli fa delle domande. Fa delle domande però che a cui lui si ritrova praticamente a rispondere in maniera piuttosto scocciata. Non so se te lo ricordi quel pezzo. No, ho un'ottima memoria fotografica, sì, sto ripercorrendo proprio la situazione. Ora, non lo so, io personalmente ci ho rivisto con tutte le differenze del caso, che ovviamente la situazione è completamente diversa, però avendo la vista, diciamo, in questo secolo, in un momento in cui, diciamo, la mia testa è perfettamente formata, però ci ho visto un grosso parallelismo tra questa situazione in cui si trova e la più moderna, e il più moderno, praticamente, probabilmente già avrai capito di cosa sto parlando, processo che è stato fatto a Mark Zuckerberg, in cui lui si è ritrovato effettivamente, se vogliamo, proprio nella stessa situazione, cioè a dover spiegare a delle persone che gli facevano delle domande apparentemente molto idiote, gli stava spiegando quello che lui stava facendo. Ora, io ho visto, non lo so, quello che ho percepito, ho visto praticamente due tecnici che stavano, quello che per loro era l'ovvio, a delle persone che non ne sapevano nulla, ma che si trovavano comunque a dover stabilire se la cosa che stavano facendo fosse lecita oppure meno. E qui io ti vengo proprio a chiedere, no? Anche per collegarmi al tuo lavoro attraverso Magnetic Man, e anche per quanto riguarda Glitch, no? La difficoltà di parlare a delle persone che non sono tecniche del tuo settore, dove sta secondo te e come si può risolvere, specie in un momento in cui ti devi ritrovare a giudicare determinate azioni e a che stai facendo è lecito oppure no? Mi rendo conto che la situazione di Bill Gates e la situazione di Mark Zuckerberg sono molto diverse fra di loro, sono due storie completamente diverse, ma se vogliamo la situazione in cui si sono trovate è analoga. Sì e no, cioè vabbè, partiamo da un concetto molto semplice per quanto mi riguarda. Io tra Mark Zuckerberg e Bill Gates ho una stima completamente diversa dell'uno e dell'altro. E su questo non avevo dubbi, tranquillo. Perché per me Mark Zuckerberg veramente è, come lo descrive Vannini, un pigiatasti che ha avuto una botta di culo. Perché se tu ti vai a vedere anche il film The Social... Sì? Pronto? Lo ha aiutato. Mi senti? Sì, adesso sì. Mi senti? Sì, okay. Ti sento. Lui veramente uno con una botta di culo grossa quanto una casa. Cioè, nel senso, di secondo me è vera la sottostoria che dice, che afferma appunto che i social network non sono nient'altro, e qui mi ricollego anche a Person of Interest, che i social network non sono nient'altro che un mezzo dei servizi segreti americani, proprio per dare maggiori informazioni ai servizi segreti stessi e dargli appunto accesso a un po' tutto quello che è il nostro background, che prima non esisteva tanto, in modo da creare dei profili ancora più precisi, tra virgolette, per gli americani, in modo da non avere nuovi attentati alla sicurezza. Ma secondo me, perché gli americani di base sono sempre stati degli impiccioni di rara potenza, anche perché lo vediamo dalle due guerre mondiali, chi era che subito andava di spionaggio e di controspionaggio, e quando veniva tagliato fuori dai russi eccetera, subito iniziava a urlare come il bambino a cui è stato tolto il ciuccio? Gli americani. Quindi per quanto riguarda questa situazione, la difficoltà, mi soffermo subito al tuo ragionamento della difficoltà di spiegare a una persona non tecnica una cosa tecnica. Io paradossalmente questo problema non lo sento tanto, nel senso che grazie forse a come sono stato plasmato da piccolo e durante gli anni di scuola, visto che io ho sempre avuto questo gap con le persone normali, in quanto mi acculturavo, cercavo sempre a me incuriosivano sempre cose strane, sempre cose molto difficili da capire, appunto come la matematica, l'universo, l'astronomia, quindi anche i computer, che sono, se ci anche la musica, inteso proprio come produzione, manipolazione dell'audio, che se ci caso non sono argomenti che proprio sono classici da dire al bar, che al bar al massimo si discute del calcio e poco altro, per cui proprio avendo questo enorme gap di base, ho dovuto come posso dirti, correre molto di più per quanto riguarda la dialettica, ma soprattutto il cercare tramite sillogismi, tramite semplificazioni di tramite appunto semplificazione dell'argomento, il più possibile di far capire, di farmi capire dalle persone. Quindi per quanto mi riguarda, a me questo problema ormai non lo sento tanto, e riesco tramite degli esempi anche stupidi e molto semplici, e da qui appunto Glitch ha avuto un buon riscontro anche riguardante anche a livello di feedback che mi sono stati mandati, proprio perché approccia anche argomenti molto complicati in maniera non semplice, però con esempi molto terra terra, proprio perché io parto da un concetto fondamentale che è, secondo me è la radice di un grandissimo mio modo di pensare, nel senso che secondo me, se non hai padronanza dell'argomento, ma devi averne padronanza a più livelli e in maniera completa, non riuscirai mai a spiegare un qualcosa ad un altro, perché se non l'hai capito prima tu, ma per capire non si intende leggere da un libro e imparare a memoria, ma proprio capire per bene il meccanismo come si incastra e rivoltarlo a tuo piacimento senza intaccarne l'utilizzo, cioè il fine, non avrai mai capito realmente come funziona quella cosa, e se non hai questi passaggi non potrai mai spiegarlo in maniera semplice al tuo prossimo. Ed è proprio qui secondo me la differenza enorme fra Zuckerberg e Bill Gates, perché Bill Gates è una persona che comunque lui studia in continuazione, cioè ancora adesso, un altro poco tiene 140 anni, continua a studiare, a leggere libri, a informarsi sull'argomento, è l'inventore del BASIC come lo conosciamo al giorno d'oggi, cioè di quello che poi è diventato il C e poi è diventato il C++, per cui lui li ha creati proprio gli strumenti, come se tu vai a dire, che ti devo dire, prima non esisteva la chiave inglese, l'inventore della chiave inglese ti saprà dire perché ha inventato la chiave inglese e perché l'ha fatta con quei crismi. Mentre Zuckerberg è una persona che si è trovata, secondo me, senza invidia, senza niente, nel momento giusto, nel posto giusto, vorrei essermi trovato io nel suo stesso posto, nel suo stesso momento. Beh, no, perché... Cioè, nel senso, hai ragione, perché comunque lui è il primo a dirlo. Io sono stato sempre molto... Una famiglia molto agiata, che mi ha praticamente aperto le porte dappertutto, avendo una madre molto... che mi spingeva comunque a dare sempre il massimo. E nel senso, lui effettivamente è un privilegiato, ma lui è il primo ad essersene reso conto. Bill Gates sì, però la differenza che lui dice appunto nel documentario, ed è qua che mi ha fatto capire la sua umanità, il suo, secondo me è un po' superiore rispetto all'ambito tech per quanto mi riguarda al giorno d'oggi, è che lui sa di essere un privilegiato, però ha utilizzato gli strumenti da privilegiato in maniera utile. È arrivato a uno scopo, quello di creare Microsoft, nel risolvere un problema reale, cioè l'utilizzo, mettere in comunicazione le persone tramite i computer e rendere tutta una serie di cose che fino all'altro ieri, perché ieri già esistevano i computer, ma fino all'altro ieri erano molto difficili. Pensa alle mail, come con la corrispondenza, pensa proprio alla trasmissione di dati da una parte all'altra, che prima avveniva con dei metodi abbastanza rupestri. Lui è stato appunto uno dei capisaldi della tecnologia come la conosciamo al giorno d'oggi, per cui ne ha fatto qualcosa, secondo me, di positivo e di apprezzabile, e sta continuando su questa strada. Quello che ha di differenza con Zuckerberg è che appunto Zuckerberg ha preso questa sua botta di culo per sostanzialmente farne un qualcosa di futile, perché domani mattina, se noi mettiamo caso, facciamo un viaggio mentale per assurdo, domani mattina, come succede per tanti racconti appunto cyberpunk, domani mattina smettono di esistere i computer, avremo un problema megagalattico. Cioè domani mattina il mondo realmente si spegne, altro che quarantena per il coronavirus. Senza computer, quindi senza un motivo di senza un accesso a internet, senza niente, cadrebbero governi, cadrebbero sistemi sanitari, cadrebbero le banche. Domani mattina il mondo torna alla pietra. Ti trovi? È proprio che per sia... questa cosa, no? Proprio per l'importanza dei... No? Ma che tra un'autorità che deve amministrare effettivamente tutto quanto, e il mondo dei tecnici che invece si occupano magari di specifici campi, no? C'è sempre questo gioco del avere il coltello dalla parte del manico, perché il tecnico sì, ti sa aggiustare le cose, ma il governo è quello che ti permette di lavorare in quel campo e ti dà effettivamente il canale, ok? Che il canale sicuro in cui tu puoi operare. A questo punto mi chiedo come fanno queste due realtà alle volte così incompatibili a trovare un punto d'incontro, secondo te? Tu ti sei mai trovato? Tu hai detto che non hai problemi effettivamente a parlarne, però magari non hai problemi con me. Ti sei mai trovato effettivamente in difetto magari con Dao, con qualcuno che ti rendeva veramente la vita difficile perché aveva in quel momento, secondo te, il coltello dalla parte del manico? Come te la sei cavata, o come te la caveresti se un'autorità a questo punto non ti venisse incontro a questo punto, e anzi ti desse addosso? Per quanto riguarda autorità, se mi fai passare l'autorità come anche un possibile datore di lavoro, ho l'esempio, altrimenti ti dovrei rispondere. A questo punto ti direi di sì, perché cioè, se non proprio quello che non è un tecnico, però che tra tantissime virgolette ti è superiore per certi aspetti, insomma. Ok, e allora mi è successo come diversi anni fa, 2015, in cui ovviamente prima di diventare freelance a tutti gli effetti, io volevo essere assunto da un'azienda, quindi inizio a mandare curriculum a destra e a manca. Avevo anche una versione molto abbozzata di magnetarman.com, che poi si è evoluta insieme a me, ma questa è un'altra storia, dove nel mio curriculum scrivevo che per quanto mi riguardava la mia conoscenza di WordPress si attestava intorno all'80% rispetto al totale, sia perché avevo fatto diversi corsi su WordPress in generale, avevo comunque visto più o meno di cosa tratta, sia perché io mi ritenevo di avere una conoscenza abbastanza vasta di quello che era il CMS. Alcune volte mi impappino con le sigle, dannazione. il CMS, perché appunto sia in ambito italiano ma anche straniero mi ero reso conto di aver una certa padronanza, ma soprattutto di conoscere tutta una serie di trucchetti e di sistemi, quindi di aver capito realmente come funziona lo strumento che io vado ad utilizzare, perché potevo facilmente addomesticarlo come volevo, ovviamente senza l'utilizzo di plugin, ma andando di codice bruto appunto all'interno proprio del sistema, quindi dei file del tema. Andai a fare questo colloquio e lui mi fece tutta una serie di domande che erano abbastanza statiche, cioè nel senso erano molto molto stupide, cioè tipo come si installa un tema su WordPress, cosa serve il tema, se tu devi andare a fare dei cambi di colorazione dove vai, eccetera eccetera eccetera. Un'interrogazione a tutti gli effetti, cioè voleva vedere, perché lui ha detto: guarda, io ho visto il tuo sito e praticamente tu qua dici che, in maniera anche abbastanza scocciata, tu qua dici che lui aveva più di 30 anni sicuramente, avrà avuto 34-35 anni, e sinceramente quando ti arriva quello di 22-23 anni, che probabilmente gli aveva fatto arrabbiare parecchio la cosa, che sembrava che io ne volessi sapere più di lui, si era abbastanza scocciato. E appunto diceva: visto che qua ho visto 80% e tutto, parlava proprio così, me già una persona che proprio elabora le parole in questa maniera è veramente da tagliare la testa. Ma andiamo avanti. Diceva proprio così: quindi secondo te per fare, e mi disse come mi pose un problema e come lo avrei risolto. In pratica mi disse: se tu hai un tema di base che non ha delle funzioni come che ti servono, appunto, che il cliente ti ha dato, come te ne esci? E io appunto dissi appunto detti la mia soluzione, che chi segue Glitch sa, ovvero che la soluzione più giusta ed attenente a quello che appunto i programmatori di WordPress scrivono nel loro manuale è quella di non toccare il tema madre, ma di fare un tema figlio che ne eredita tutte le proprietà, e poi andare a mettere a mano le funzioni in più che il cliente ha richiesto, e poi far leggere a WordPress quel tema, sia per quanto riguarda ottimizzazione sui motori, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ti sei mostrato competente alla sua domanda. Io credevo sì di avere una risposta competente, anche per quale di WordPress ti va del clip base come standard. E ancora oggi, tranne lui, perché già va a finire la storia, penso che l'avrei capito. Lui, bene o male, tutto un codice. Lui mi dice che secondo lui questa risposta va. Proprio risposta va. Perché lui ha utilizzato il tema padre, andandolo a modificare, inserire azioni, oppure sarebbe un reperito e avrebbe trovato un tema a me che funziona. Ma che si sarebbe parto in un altro, proprio in una ma questo io ho soluzione, per me è sbato, per tu lo dici per fare una cosa, diventi la mia mano, senti sto rumore che fa rumore, niente, la cinghia, che della cinghia ci conosciamo tutti sulle auto, quindi la cinghia di trasmissione che secondo me non va, puoi vedere che problema tiene. Quello ti aspetta un attimo, controlla, smonta la macchina, si ferma a un certo punto e poi chiama un altro amico suo. Senti, guarda, c'ho un problema alla cinghia di trasmissione. Ma secondo te è questo problema? Perché io qua vedo rotto, ma sei sicuro che è rotto? E cioè deve essere così in questa maniera? Scusa, ma tu sei meccanico oppure sei un intermediario? Perché arriva da quel punto, se sei un intermediario, io voglio andare a parlare direttamente col meccanico, perché se devo pagare te per poi avere un altro che mi fa il fatto e avere l'intermediario di turno, preferisco saltarmelo e andarmi anche a risparmiare una cosa di soldi. Ma quindi come è andata a finire questa storia? E non m'hanno preso. Quindi non hai sconfitto il sistema? Paradossalmente no, perché lui dopo questa cosa mi disse sbagliato. Io ovviamente sempre con tutta l'umiltà, perché sono abituato ad avere a che fare con persone anche difficili mentalmente, gli dissi guardi, secondo me non perché lei non sia acculturato eccetera, l'ho preso anche abbastanza per il culo con tutti questi termini che per fortuna la scuola mi ha insegnato. Lui non capì che cosa significava acculturato e già qua creò non pochi problemi alla mia anima. Dissi guarda, non perché lei non sia acculturato della materia, ma sostanzialmente secondo il manuale di WordPress, come può andare a vedere anche sul sito wordpress.org, che è comunque il sito ufficiale dei programmatori di WordPress, cioè di quelli che ti hanno dato la chiave inglese, ti dicono di fare in questa maniera, perché a livello di ottimizzazione e a livello proprio di come il motore va a interpretare il codice conviene. E lui è abbastanza scocciato, va a cercare tutto. Vedi che era come dicevo io, e si ferma, mi dice senti, va bene, appurato questo, che però secondo me è come dico io. A me quando una persona mi dice che secondo me è come dico io, dopo che gli ho dato una prova tangibile, gli ho fatto tutto un ragionamento logico, mi verrebbe la voglia di proprio prenderle a martellate sugli alluci, perché non è possibile che io ti do una prova, ti faccio tutto un ragionamento logico e tu che mi vieni a dire come dico io. Vabbè, andiamo avanti. Mi disse vabbè, ma tu per questa posizione lavorativa quanto ti aspetteresti di stipendio? Feci io, guardi, effettivamente a me mi aspetterei almeno per me non ci stanno problemi, vengo da Fisciano, tornare a Salerno per me non è un problema perché lo conosco come le mie tasche, visto che ho abitato per tanti anni a Salerno. Per la zona industriale sono più di 20 km ad andare e altri 20 km ovviamente a tornare, visto che farei 40 km solo di auto al giorno, più e comunque come può notare so di quel che parlo, credo che uno stipendio medio di almeno 700-800 euro, no, 1000 euro al mese, ovviamente full time, sia fattibile. Lui mi guardò, fece no vabbè, ma lei mi sta chiedendo l'impossibile, e poi noi abbiamo bisogno di un altro tipo di candidati, e me ne fece andare. Insomma, un epilogo piuttosto triste per questa storia, ma... Ma non tanto triste, mi ha insegnato un sacco di cose, cioè mi ha insegnato effettivamente che non devi dire subito il prezzo, ma devi contrattare. Poi da là ho iniziato anche a acculturarmi per quanto riguarda la contrattazione del prezzo, come indurre tutta una serie di bias all'interno del cliente, quindi delle persone che tendi di portare dalla tua parte, a renderle più facilmente traghettabili, e poi questa è psicologia applicata appunto al commercio. È stato costruttivo da tanti punti di vista questa cosa. E, Giuseppe, io che ti devo dire, siamo arrivati all'orario stabilito secondo me, perché veramente di informazioni ne abbiamo tirate fuori una caterva veramente. Io come è andato questo episodio, di come siamo riusciti ad interagire, di come abbiamo effettivamente imbastito questo discorso, e ti chiederei come ultima cosa di dirci dove possiamo trovarti e dove ti farebbe piacere, insomma, che noi poggiamo gli occhi per scoprire il tuo. sempre al solito posto, ovvero magnetarman.com, che è il mio sito personale, dove lì ci sono tutti i contatti, c'è anche la pagina relativa al podcast e in generale un pochino quello che faccio. Quindi se andate a come posso dire, a navigarlo, potete notare, vedere i clienti, i siti che ho fatto, eccetera eccetera eccetera, c'è tutto lì, un unico posto. Io lascerò naturalmente il tuo contatto ovviamente nelle note di questo episodio. E dunque, ultima cosa che vi voglio ricordare è che martedì naturalmente torna il Mattino Loro in podcast con la nuova puntata. Io non so quando tu tirerai fuori qualcosa di nuovo per Glitch. Allora, avrei dovuto cacciare qualcosina oggi, cioè ieri effettivamente, che di solito è sabato, io sabato a mezzanotte esco, però sto incontrando un sacco di problemi sia per quanto riguarda questa situazione un po' particolare, appunto della quarantena eccetera, sia per quanto riguarda un nuovo acquisto che abbiamo fatto a casa, quindi sto avendo poco tempo a disposizione e non vorrei che la qualità ne risentisse. Credo che per sabato prossimo riesco a tirar fuori qualcosa, perché devo assolutamente, come ho già detto a un'altra persona, chiudo velocemente, come ho già detto a un'altra persona che mi ha contattato che le puntate gli erano interessanti perché non sto uscendo più, devo chiudere assolutamente, perché questa epopea del server vuole una conclusione anche a chi se lo vuole iniziare a costruire, e quindi devo per forza chiudere assolutamente, devo rilasciare le puntate, anche perché poi ci aspetta un altro lungo cammino, che è quello di come si creano i siti web, e quindi fare tutta una panoramica su WordPress dalla scelta del server dal sito finito, che anche questo sarà un bel viaggio, e questo secondo me può essere molto interessante. E quindi niente, ti auguriamo veramente tutto il bene del mondo, io te lo auguro, perché uso il plurale senza senso, visto che io qui sono da solo, però ti auguro veramente tutte le più grandi fortune di questo mondo per il tuo podcast, per il tuo lavoro e per tutto ciò che intenderai fare in futuro. Spero un giorno che tu riprenderai a fare musica, me lo auguro veramente tanto. E detto questo, Giuseppe, grazie ancora tantissimo per aver partecipato a Morfeo, spero che ci sia un'altra occasione per chiacchierare, magari anche assieme a qualcun altro, creare qualche episodio tematico e non solo almeno, ma anche così, insomma, secondo me abbiamo tirato fuori veramente veramente tanta bella roba, quindi grazie veramente tanto per la tua partecipazione. Grazie a te tantissimo per avermi ovviamente invitato, e non ci stanno problemi, ti ripeto, basta avvisarmi un pochino prima e darmi più o meno una scaletta, così mi riesco ad organizzare, perché come puoi notare sono molto logorroico, e nessun problema, ci possiamo organizzare quando vuoi. Ok, e niente, signore e signori, con questo saluto finale vado ad abbassare la musica, come proprio da prassi ormai, a me ormai esce congeniale così musica da solo, per concludere nel silenzio questa serata che ormai volge al termine. Grazie veramente tanto a chi scaricherà questo podcast, a chi se lo sentirà. Mi rendo conto che è molto lungo, ma Morfeo non è nato sicuramente per chi insomma cercava un podcast corto da ascoltare, ma visto che comunque ne ho ormai troppi di podcast da ascoltare, se volete qualcosa corto c'è e non dovete fare altro che andare a scoprirlo. E detto questo, vi saluto e vi auguro una buona notte. Ciao! Let's go! Let's go! Da Media World sono arrivati i Club Days. Entra nei club e scopri le offerte dedicate. Ad esempio, fino al 30 settembre, solo per te, TV Hisense 4K 55 pollici, tua a soli 379 euro. Approfittane in negozi online. Media World, let's go!